A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. Io da oggi solo scritto faccio, solo scritti, non faccio più i parlati di WhatsApp. Cruciale, prima mi chiede scusa, poi avrai i miei parlati non li beccherà più, fidati. Possono mandargli gli scritti, ma non i parlati, parlati zero. Technologic. Zero. Technologic. Zero. Technologic. Scusa. Mi è sfuggito. Questo prodotto che mi è sfuggito perché sto mangiando. Zero. Zero. Zero. Zero. Ah, andiamo avanti. Pronto? Guarda, non mi chiamare puttana, chiamami studentessa di Piccoli. Professoressa di Cazzi. Allora, sono arrivati i carabinieri con l'ordinanza del sindaco di San Fior e mi fanno: signora, lei devo dare la multa. Di che cosa decido? Non può stare qua. Chi ha detto? 100 euro. È il mio magnaccio. Ogni sera viene, mi fa la multa 100 euro. C'era uno che è andato a prostitute. Sono arrivati i vigili, non stavo facendo un cazzo. Perché? Devono rompere i coglioni a chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Lorenzo, stai zitto, ciucciacazzi, stai zitto. Stai zitto, ciucciacazzi. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Da cosa partiamo stasera, David? Cosa partiamo, amico mio? Mani alzate, cosa c'è? Sono arreso ormai, arreso a questo. Da cosa partiamo? Per esempio, ci sono delle notizie. Oggi, guarda, voglio dirti ero a colazione, non posso dirti con chi, ma insomma in un bellissimo ristorante romano. Solito, non in una tavernetta con le tovaglie di carta. No, anche quando ci vado, molto volentieri. Vabbè, allora... Ma oggi ero in un bellissimo posto, diciamo, nella zona dei Parioli. Solito. In un bellissimo ristorante, si chiama... Da 100 euro, sì, non, va bene, dirò, non lo so, non ho pagato io. Eravamo a questa colazione, stavamo ragionando sui fenomeni migratori, su questo tentennio che ho fondato. Ma insomma, stavamo ragionando di tante questioni importanti. A un certo punto mi si avvicina un'importante, veramente importante imprenditrice romana. Non voglio dire assolutamente il nome. No. Che mi dice: ah, lei che dico, cioè io stavo già sbiancando. Ah, sì, lei, ma lei è Parenzo, dico, sì. Ah, ma io. Dice piano: ascolto tutte le sere. Lo diceva perché un po' si vergognava, ovviamente. Ma perché? Se te lo diceva, guardi, perché si vergognava? Guardi, non ho mi capito. Dispiace, no, trasmissione molto bella, cioè, però alle volte è veramente eccessivo. Dico: beh, sì, no, lei ha perfettamente ragione. Infatti io vorrei portare una virata, vorrei... Dice: no, molto bello, cioè, certo che alle volte c'è certa volgarità, però io rido da matti, dice, quando lo dica. Perché se dice che ride, come faccio poi a redarguire il coglione che sta a Milano, che invece... Io ho detto: le faccio una promessa, da oggi non sentirà più neppure una parolaccia. Ho fatto questa promessa. Fai tutto da sola. Questa promessa. Allora, ragazzi, la realtà è molto semplice. Uno dice che se la piglia con i rom, eccetera. Però oggi sono stati sequestrati 300.000 euro in camper e auto di lusso, illecitamente accumulati. Due cittadini di etnia rom, protagonisti di svariati furti e truffe. Via, in galera. Ora, notizie così ce ne sono, caro Parenzo. Sì, mi dispiace dirtelo, mi dispiace dirlo alla signora Pavlovic, a chi ci accusa di razzismo. Notizie, ho letto oggi un articolo su un quotidiano che si chiama Il Fatto. Sì, certo. No, lo conosco benissimo, Il Fatto, ovviamente, sto un po' ironizzando. In cui ci si accusa di essere fomentatori anche lì di razzismo e di odio. È vero, una cosa torto, è vero. Una cosa patetica e ridicola. Perché tu non le stai sti, no, non è che mandi, chiudi o dici che vergogna, basta, ma con questo, no, razzismo. Tu spesso dici, ma no, ma è legittimo essere razzisti, cosa che non è a legislazione attuale, a buon senso anche attuale, se vuoi lasciare da parte la legge. Tu dici sì, giusto, evviva, diritto a odiare, mandate a quel paese i rom, dite che i negri fanno schifo, ne avete diritto. Non è che dice una vergogna, una porcheria, ma come si permette? Questo è il punto politico. Intanto è ripartito il piagnisteo napoletano, ragazzi. È ripartito in grande stile il piagnisteo napolitano contro la Juventus e contro i corrotti del calcio per quello che è successo ieri sera. Carlo Alvino, il simbolo di questo piagnisteo, conduttore radiofonico napoletano. Qui c'è malafede. Qui c'è qualcuno che scientemente ha deciso da un momento all'altro che il Napoli dava fastidio e a Roma in finale non ci doveva andare. Chi comanda il calcio in Italia questa sera deve vergognarsi per quello che abbiamo visto allo Juventus Stadium. Poi lo sai stasera per chi passiamo? Per i vittimisti, per quelli che piangono, per i soliti napoletani. Corriamo questo rischio, Carlo. Meglio vittimista che fesso, per quanto mi riguarda, per tutta la vita. Meglio vittimista che fesso, perché io per fesso non ci voglio passare. Poi protestano per i cori. I cori contro i napoletani. Certo che i cori contro i napoletani sono una minchiata, ma ragazzi, non è mica una cosa di tutti i giorni. Ci sono cori contro gli uni e contro gli altri in ogni stato d'Italia, ogni partita. Non diciamo cazzate, dai. Nessuno oggi, Rai e via discorrendo, nessuno oggi riporta, parlo di organi di informazione nazionali, ancora una volta i cori vergognosi ripetutamente urlati da becerume vario al Babele Stadium. Dalla Juventus rispondono: meritate il campionato della parrocchia, il super juventino Zuliani. Voi vi meritate di fare il campionato della parrocchia e gli altri quello dell'Europa. Vi dovete vergognare, perché in Europa voi non ci dovete andare, perché date. Allora ragazzi, come la penso io, abbastanza chiaro, questo piagnisteo lo trovo ridicolo, col sindaco che dice che è una vergogna e che c'è stato un furto. Ma il sindaco si occupi di governare la città. Con uno scrittore come De Giovanni, uno scrittore anche serioso, quello che ha scritto I bastardi di Pizzo Falcone, là, come diavolo si chiama, è bestseller, là, assoluto, che dice che ci hanno fatto delle bastardate, tutti presi da questa sorta di follia collettiva. Il presidente De Laurentiis che dice bisogna giocare con la primavera, il ritorno con la Juventus, basta con questo piagnisteo napoletano, con questo vittimismo ridicolo, basta. Lo so che mi farò odiare ancora una volta, mi farò odiare di più di quanto non sia odiato da Napoli, ma non ne posso più di queste lamentele, di questi pianti continui, al di là dei singoli episodi di cui non me ne frega nulla, vi devo dire la verità, non me ne frega niente, li classifico ormai come cosa normale nel calcio. Se non c'è la moviola ci saranno sempre questi episodi controversi. Volete dimostrare che c'è un puparo, volete dimostrare che c'è un grande vecchio che governa tutto, fatelo, dimostratelo. Se non lo dimostrate, non ci rompete i coglioni con questi piagnistei. A proposito, Nicky Vendola piange a proposito di piagnistei perché dice: beh, io sono padre, però lo Stato non mi riconosce come padre. Il piagnisteo bello. Vendoliano. No, piagnisteo è un dato di fatto, perché un'accezione negativa. Ma lui sì, non sono padri i miei diritti di pace. Cioè, un padre che è l'altro, il canadese, là, no, il suo compagno. No, lui è a posto. Ma io sono d'accordo, per carità. Perché ha posto una questione vera. Lo il bambino, amo, fino, lo amo alla follia. Il bambino Tobia Vendola. Tobia si Vendola, chiama. Tobia c'è, Vendola, sì. Esiste. No, Tobia ha il cognome dell'altro, mi sa. D'accordo, ma lo chiamo Vendola perché così la gente capisce. C'è, sì, esiste. Tobia Vendola, sì, Tobia Vendola. Ecco, Tobia Vendola c'è, esiste. Ed è un bambino di serie B. Per il diritto, per lo no, Stato. No, ma io sono d'accordo, dovrebbe essere padre, sono favorevolissimo, quindi, figurati. Lui fa però c'è il piagnisteo, oddio, lo amo la follia, ma non ho i diritti del padre. Non è un piagnisteo. Sì, va bene, vogliamo avere il secondo figlio, va tutto bene. Però Sgarbone, sentiamo Sgarbone, dai, su questo è sempre una colonna portante. Dai. Il bambino è più importante di una coppia di pretenziosi coniugi che hanno bisogno di un cagnolino e lo vanno a far partorire attraverso un percorso. Adottino un bambino disperato e povero del mondo dove non c'è bene, non c'è pane. Il giudice mi ha condannato ad essere padre. Io sono stato, diciamo, non costretto, perché mi fa piacere avere tre figli, ma il giudice mi ha condannato a essere padre. Io ero genitore, non padre. I miei figli erano delle madri per me, io potevo contribuire sul piano economico, ma io non ho lo status del padre. Ora, ogni figlio ha diritto a una madre. Due padri non valgono una madre. Allora, per l'ennesima volta, caro Parenzo, arrenditi. È uscita un'altra ricerca fondamentale sul lavaggio quotidiano. Non serve farsi la doccia ogni giorno. No all'acqua troppo calda. Non ti preoccupare, poi te lo dico. No all'acqua troppo calda, alla spugna, evitare la spugna piena sempre di batteri, eccetera. Dunque, state calmi, non serve farsi la doccia ogni giorno. Inutile che ti lavi la mattina, ti fai la doccia la sera. Non serve farsi la doccia ogni giorno. Non serve. Devo confessarti un'altra cosa. Con grande piacere, nella giornata pomeridiana mi sono recato qui accanto dai milionari miliardari della Pricewaterhouse e ho impegnato i loro bagni della Pricewaterhouse. Lo sai perché mi diverte la cosa? Ho detto, hai visto come sono stato sobrio, no? Ho impegnato i loro bagni a lungo, puoi immaginare solamente quello che ho fatto. Avevo un po' di mal di sto. Ho impegnato a lungo i loro bagni perché godono il fatto che poi devono pulire le mie feci. Signori della Pricewaterhouse, ma perché non tiri l'acqua? Scusa. Che mi blocchino? Che blocchino i passaggi? Ma perché io non godo, tiri l'acqua? Non ho capito. Sì, tiro naturalmente l'acqua, però ogni tanto lascio qualcosa di sporco, così dopo deve passare il filippino là, quello che sei, a fare le pulizie. Ma perché sei così? O l'italiano, poi non lo si chiama water, che vuol dire acqua, quindi va no, ma capito, godono il fatto che non siamo noi poi a dover pagare no, le mie feci, ma sono i signori la milionari della Price. Senta, è giustizia a dover sociale pulire, a dover pulire. È una sorta di giustizia sociale alla capanna. La dico tua, tu, sì, esatto, bravo. Sono sì. andato testé a defecare presso una multinazionale. Ma perché dire? Sono andato lì, sono entrato al bagno e pensate, non ho neppure tirato l'acqua. Qua. C'era una puzza che scappavano come conigli questi colletti bianchi. Ma che hanno fatto, poveretti? Sono dei multimiliardari ai quali ho cagato nel cesso, letteralmente. Letteralmente. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta La Zanzara. Operato di emorroidectomia 7 giorni fa, paralizzato per circa 7 giorni a letto con dolori lancinanti, prima passeggiata col mio cane perché sono in piedi finalmente ora, e con me, grazie al cielo, c'è la zanzara. Allora ragazzi, nuovo fenomeno scoperto ormai dalle reti Mediaset, in particolare dalla vostra parte o quinta colonna. L'ex sindaco di Taranto Giancarlo Scito. Salutiamo più volte intanto all'ascolto l'amico Davide Vecchi del Fatto Quotidiano. Ma che c'entra adesso? Che scusa, scrive: silenzio, sto tornando da Rignano a casa di Tiziano Renzi, in autostrada c'è coda, meno male che ci sono Cruciani e Parenzo con la zanzara. Grazie. Bene. Davide Vecchi, grazie. Ma grazie, che scusa, grazie, ma che grazie. C'entra adesso? Leggeremo tutti i messaggi di voi ascoltatori che li mandate su Twitter, in particolare quelli degli amici, tra cui appunto Davide ma Vecchi non del è Fatto vero. Silenzio, tra cui quelli c'è del un fatto altro che dice io la doccia me la faccio tutti i santi giorni, ma uno è sbagliato, sbagliato, uno sbagliatissimo, uno sporcaccione, uno sporcaccione. Vabbè, comunque ragazzi, nuovo sporcaccione. Ma Marco Agnoletti, ottimo, io la doccia me la faccio tutti i santi giorni, anche due volte al giorno, dice Marco Agnoletti, già portavoce del sindaco di Firenze Nardella. Grazie per seguirci, buon proseguimento con i nostri programmi. chiudi, mi sono rotto le palle oggi. No, ma aspetta. No, Giancarlo Scito è il nuovo fenomeno, è il nuovo fenomeno delle reti Mediaset. Non si capisce, ormai gli hanno tolto il vitalizio, no? Non c'è manco un motivo di discussione. Comunque non si capisce perché vada lì a farsi ma perché urla, urla in dialetto. Ma è stupendo, a parte che lo pagheranno, ma urla in dialetto. No, sì, come no, alla grande. No, urla in dialetto, ma è normale, è gettone di presenza, normale. Urla in dialetto, sì, se la prende con tutti i politici, fa parte, cioè, ma è lì agnello sacrificale, ma non troppo, perché dice scimmia, pezzo di merda, schifoso, lurido, eccetera, vampiro. Cito contro Marcato della Lega, grande duello. E c'è tanta di quella gente che non può mangiare, che prende 300 euro di pensione al mese. Sei stato condannato, ti hanno tolto persino il vitalizio, ma cosa parliamo ancora? Ah, fatto a rompere le scatole. Bravo, giusto. Vai a casa, non sei questo, nessuno. Chi è questo imbecille? No, chi è questo non le parole, imbecille? Dai, sei queste cose. Devi perché io adesso, a casa, non puoi io non adesso mi tolgo il microfono e mi mando a fanculo. Cito, per favore. Un bel Pietro, cito per... Ma come lo inviti per mandare a fare in culo quelli che lo attaccano? Dici cito per favore. Dai, ancora, ancora. Allora, se devo essere offeso, tu pretendi di rappresentare i cittadini che stanno dicendo queste cose, hanno che detto io dopo che 25 stato anni hanno detto che sono innocente. Coglione! Io bravo. Dopo 25 Cito. Anni hanno detto Cito. Che il fatto non sussiste. Cito. Punto. Io e allora perché ti hanno, chiamare allora perché ti hanno per tolto il vitalizio? Coglioni. Ogni volta non mi chiamate più. Avete capito? Perché ti hanno tolto il vitalizio a te e agli altri condannati? Io ho lavorato oltre 50 anni a Coso Curioso. Chi è che sta parlando? Sì, fatemelo bravo. Vedere. Ma da dove cazzo vieni? Tu non sei niente. Io le dico Cito, che non perdere. È stata una legge Cito, che ha fatto questo. Cito, è stata la presidenza della Camera. Ha capito? Ma chi l'ha fatto? Lei è parlamentare. Sei che volgare cazzo come non so che cosa. Impara culo, l'educazione. Ma Cito. Impara l'educazione prima di pretendere i soldi dei cittadini italiani. Vabbè. Si alza e se ne va. Un altro classico. Allora ragazzi, andiamo a Padova, iniziamo, apriamo le cateratte, come e si comunque, dice, no? E comunque per sapere tutto sulle pensioni, molto più che sanguisughe, vampiri! La nuova inchiesta sulle pensioni d'oro di Mario Giordano, vampiri! È già in preparazione per l'anno prossimo il libro Maledetti Assassini! Giuseppe da Padova, vai Giuseppe. Pazzesco ragazzi, Giuseppe, ciao. Dai, Giuseppe, dimmi, Giuseppe, ciao, dimmi, Davide, dai. Ciao. Due cose, ma se devi vampiri una... vabbè, è una roba che io mi manda i matti a me sta roba qua. Cioè mi piace da morire, figurati, però vampiri. Ma se uno vede un vampiro, perché uno è autorizzato, se vede un vampiro per strada a fare che cosa, no? Sì. Sangue, la sanguisuga, cosa fai te se c'è? La schiaccio, per forza. Sanguisughe. Nel 2018 avremo maledetti. Giuseppe, dai, che mi vuoi dire? Allora, volevo dirti due cose. La prima, ma se devi trombarti una tipa, no? Come fai a non farti almeno la doccia una volta al giorno? Ma amico mio, ma chi se ne frega? Io ho trombato delle persone anche non facendomi doccia da tre giorni, andava benissimo. Cioè, ma la puzza va bene, la puzza oscena e l'oscenità. Ma chi se ne... Ma me ne sbatto. Posso dirti la verità? Me ne sbatto. Anche se me l'hanno detto una volta, ho detto bene, o va bene così, oppure te ne vai a fare in culo. Chiaro? Amico mio, è così la regola. Se poi uno vuole... A parte che anche quelli che apparentemente odorano di buono, odorano di cose candide, cioè magari nascondono degli odori terribili nell'intimità, terribili. Non è mica detto, uno si presenta tutto preciso, eccetera. A parte ciao! Di... Chi è? È la mia collega questa. La tua collega chi è? Scusa, chi sei? Sono in negozio, lavoro, è la mia collega che vi ha salutato. Ma chi è? La collega di quale negozio? Scusa. Io lavoro a Padova in un negozio e la mia collega è qua che ascolta diretta e è venuto a salutarvi. Vabbè, ottimo, dai, Giuseppe. Comunque, dimmi. Volevo dirvi che, premesso che mi stanno sul cazzo i vegani, i vegetariani. Vabbè, ma quello eccetera, chi se ne frega adesso, esatto. Dai, ma non che ci però frega. Dopo il video delle due Rom. Sì, Italia, quelle che urlavano, le urla. Ho dovuto ricredermi e dare ragione ai vegani. Cioè? Che dicono che gli esseri umani e gli animali sono uguali, no? Perché cioè? La roaming ad che urlava era uguale ai maiali che vengono sgozzati nei macelli e quindi pazzesco, hanno ragione. Cioè, secondo te i Rom sono delle bestie, secondo te i Rom? Sì, peggio. Peggio delle bestie? Peggio. Dunque noi siamo autorizzati come per le bestie ad ammazzarli? Diciamo, dal momento che non hanno la minima intenzione di vivere come noi, ma preferiscono vivere rubando di espedienti nei campi in mezzo allo schifo più totale. È meglio l'eliminazione fisica, dice. A quel punto meglio. sì, meglio la soppressione. Sì, ma diciamolo, ma come dice, diciamo? Diciamolo, come direbbe. Diciamo che ci sono tante caldaie che hanno bisogno di combustibile oggigiorno. Abbiamo il numero di questo qua, non si può più sentire, scusami. No, Davide, ascolta. No, lei è una lei è pura immondizia. Ma lei, lei è immondizia umana. No, no, no, io non voglio parlare con uno come lei che con questa voce canta. Ma certo, assolutamente sì, ma dire che sono persone da mettere in una caldaia con questa voce pseudo candida da banalità del male è vergognoso. Cioè lei è una persona schifosa, orrenda, orrenda. Le persone che sono dei criminali, i criminali vanno messi in galera. I criminali vanno messi in galera e non va gli assassini vanno messi in galera, non abbiamo la pena di morte, men che meno per gente che vive ai margini della società come avviene ai Rom, come è per i Rom, devono essere bruciati come lei dice. Quindi i Mercedes e i Porsche ai margini della società, nulla giustifica di mettere le persone in una caldaia. Se tu avessi di fronte, lei fa schifo, se tu lei avessi è una di fronte, umanamente schifosa. Se tu avessi di fronte un bambino Rom, cosa faresti? Lo metteresti in un forno? Cosa faresti? Fa schifo lei. Guarda Giuseppe, io anche lei per... Schifo. No, ma dai, vai, rispondi chiaramente. Inutile non fare, non girare intorno alle cose. Sono i futuri delinquenti, quindi dunque... voglio dire. Vai, anche eliminandoli, cosa cambia? Eliminare i bambini Rom. Passami la tua cosa, la tua lei collega un attimo. Passami la tua collega. Aspetta, vediamo se è libera. Aspetta un secondo. Speriamo che quel negozio chiuda, così lo licenziano questo qua. Aspetta un secondo, eh. Sì, aspetta. Te la passo subito. Sì, in un negozio di Padova c'è un razzista come commesso proprietario. Ancora non lo sappiamo, ma lo identificheremo. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo dopo con la signora. Voglio capire che relazioni ha con quel Giuseppe. Lasciati un parenzo. E alla defecazio non ci penso. La zanzara. Oggi mi sentivo triste. Così sono salito in macchina, podcast della zanzara, e sono andato fino al casello di Carisio, perché volevo ridere, ridere. Cazzo Cruciani, se non mi fai riascoltare i nani di Benson, io spacco tutto. Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Ciao, due chiappe, amore mio. Comunque a me sta cosa della pipì nel lavandino fa parecchio girare i coglioni. Cioè, io che sono donna, come cazzo faccio? Dimmelo, come cazzo faccio? Ah, ah, che pisciata. Grazie rabbino, grazie. Dimmi, tieni sempre la TV al massimo? Sì. Gli proibisci di fumare e non ha ancora deciso di andarsene? No rabbino. E allora piscia dentro il lavandino. Ma papà, che schifo, non puoi pisciare nel cesso come fanno tutti. È casa mia, se voglio pisciare nel lavandino, io piscio nel mio lavandino. Una delle notizie di oggi, caro David, sì, è che a Roma pare che siano diminuiti i prezzi delle mignotte per strada. È notizia molto importante che ha a che fare con l'economia, naturalmente questa è una radio di Confindustria, una radio economica molto importante, e mi ha fatto ricordare, anzi l'amico Simone Spezia ci ha ricordato, per essere corretti, un film di Verdone che tu da cinefilo dovresti assolutamente ricordare, però te lo ricordo io se non ti viene in mente. Quanto vi prende lei? 100 bocca, 150 completo. No, scusi, c'è un parametro illogico in questa sua richiesta. Cioè, non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare il 35% in meno rispetto al rapporto completo. qua mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi, eh? Ma che cosa vuoi da me? Voglio pagare il mio boccaglio come una persona onesta, scusi, come lo pagano tutti. Non fuori mercato, come lo si paga sulla Palmiro Togliatti, sulla Tiburtina, sulla Tiberina, a Piazzale Lagosta a Milano, ai campi di Bisenzio a Firenze, scusi. 70. Ma 70 veniva a casa mia, abbia pazienza, 65, su. Vabbè, 65. Allora, il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro, ex direttore del quotidiano Libero, andrà a giudizio per il titolo, cosa incredibile, in Italia veramente i magistrati qualche volta veramente mi sorprendono, perché sicuramente la maggioranza sono delle brave persone, ma come si fa a mettere sotto processo, a pensare solamente di mettere sotto processo, non so per quale istigazione all'odio razziale, forse, il titolo di Libero, te lo ricordi Parenzo, quello famoso? Bastardi islamici. Bastardi islamici, ora non mi dirai che sei d'accordo con una cosa del genere, immagino di sì, perché mi ricordo che voglio, ti sei... Voglio capire le motivazioni che hanno spinto i giudici non fare l'avvocatucolo, assolutamente capire perché lo hanno rinviato, ma sicuramente è un titolo razzista, sicuramente è un titolo gay. Cioè per te andare a giudizio, andare in tribunale per aver fatto il titolo Bastardi islamici... Non so in base a quale... Istigazione all'odio razziale, certamente. Non so se è questo una delle... se ci saranno anche altre motivazioni, credo, sì, evidentemente. Vabbè, ma non fare secondo te è giusto che uno venga processato? Io penso che quel titolo sia un titolo razzista. E dunque è giusto essere processato per una cosa di questo tipo? È giusto capire se veramente, come deve fare la legge, se quello lì è un'istigazione all'odio. Cioè qualcuno è giusto aprire un fascicolo, istruire un processo, eccetera. Il fascicolo mi pare sia stato già aperto su, in automatico. Ma lascia perdere il tuo giudizio, voglio sapere, non il tuo in automatico, dai. Allora, a proposito di quelli che dicono ancora che ci vuole... Cioè, devi sapere che l'opinione non è l'opinione non è una cosa neutra, no? Perché sennò non sarebbe... Ma cosa c'entra? Io ti sto chiedendo, è un titolo per cui bisogna portare un direttore in tribunale, non bisogna avere... Ma come bisognerebbe portare in tribunale tutte queste persone che chiamano qui? Allora rispondi sì, giusto processare Belpietro. Voglio capire in base a quale norma Ma ho capito, ma lascia perdere, giusto processare Belpietro, non è una domanda difficile da rispondere. Cioè uno dovrebbe dire sì, giusto processarlo, poi lascia perdere la condanna. Giusto processarlo. Assolutamente. Bene. Sì, allora, ma il fascicolo io ero già d'accordo quando lo aprirono. L'aborto. C'è il racconto di una ragazza che è andata in giro per 23 ospedali. 23 ospedali. Poi uno dice che non c'è bisogno di eliminare la famosa obiezione di coscienza. Qualsiasi persona faccia il medico e venga assunta come medico, che sia ostetrico, che sia ginecologo in un ospedale, ha il dovere di applicare una legge dello Stato e dunque la legge sull'aborto. C'è il caso di una ragazza, perché Adinolfi dice no, ditemi il caso in cui uno non è riuscito a abortire, ma ci mancherebbe pure che uno non riesce ad abortire. Il problema è che c'è una ragazza, per esempio, che ha dovuto fare il giro di 23 ospedali prima di abortire, un po' per le vacanze, perché era nel periodo estivo, e anche per l'obiezione di coscienza. C'è riuscita solamente per un intervento di un sindacato, credo che fosse la CGIL, che qualche volta serve a qualcosa. Allora, eravamo a Padova con Giuseppe, che ci doveva passare la sua collega. C'è ancora Giuseppe? Sì. Allora, quello là che Parenzo vuole denunciare per... Ma lei... Parenzo denuncierebbe chiunque Hai detto delle cose sui rom e Parenzo pensa che queste cose qui siano punibili. Ma io spero che anche tu lo pensi, però. Io penso che siano delle follie, punto e basta. Ma pensi che sia punibile? Ma non me ne frega niente, ma non faccio il coso, non faccio il giudice io. Siccome mi chiedi cosa penso io del titolo di Belpietro, penserai anche tu qualcosa di uno che dice che vuol mettere i rom in una caldaia? Penso che sia una cazzata, punto e basta. Ma pensi che sia una stupidaggine o che sia razzismo e istigazione all'odio? Io penso che sia istigazione all'odio. Istigazione all'odio è un'altra cosa. Che cos'è l'istigazione all'odio se non mettere delle persone dentro una caldaia per te? Che cos'è? Tu Parenzo odi chi odia i rom. Ma io odio il razzismo, i rom. Se uno è un ladro, indipendentemente dal fatto che è rom, se uno è un ladro deve andare in galera, ma non deve andare a finire, anche se è un ladro italiano, in una camera a gas. Io penso questo. Ma io posso odiare chi vive nei campi, puzza, non si lava, ruba? Ma posso? Può odiare, ma se dice che vanno messi in una camera a gas, per me è razzismo. Però ma mi sembra di essere solo in questa roba. No, che solo, assolutamente non no, assolutamente carità, no. Se pensate tutti che sia, no, non sia così, figurati, va bene. Ma io assolutamente penso che sia una follia pensare una cosa del genere. Ma non solo appunto, una follia. Una follia inaudita. Una cosa. Tu mi stai chiedendo punibile Giuseppe dalla legge oggi, no, ma questo lo deciderà un no giudice. Ma perché devi se fare puniscono come Giuseppe, se io democristiano. Vabbè, ma sì, almeno se puniscono ma di chiaramente che è una roba razzista e che la legge oggi punisce chi dice queste cose, chi incita all'odio. Questo non lo so. Se uno dice se uno dice per me dovrebbero morire, dovrebbero carcerare 10.000 italiani. Ma cos'è l'istigazione all'odio allora? cos'è? Lo decide un giudice, tecnica? Cos'è istigazione all'odio? Ma per te, figurati, che cos'è l'istigazione all'odio razziale? Pure il titolo di Belpietro, secondo il giudice. Figuriamoci se c'è una cosa univoca. Dai, su, Giuseppe, passami quella. Beh, che lavora con te. Quello di questo signore è sicuramente istigazione all'odio, molto Sara? Più del titolo di Belpietro. Come si chiama? Pronto? Sì, signora, lei che ruolo ha in quel negozio? Signorina, commessa. Commessa, quanti anni hai? 30. Sei la fidanzata di Giuseppe? No, grazie a Dio. Perché grazie a Dio? Credo, fatto? Perché si vergogna anche lei. Ti vergogni di quello che ha detto sui Rom? Beh, te credo. No, condivido con lui. Condivido con lui. Vedi, la voce leggera e la voce, come dire, dolce e del razzismo. Beh, Scusami, come ti chiami, Sara? No, Valentina. Cioè, Valentina, cioè è giusto secondo te bruciare i Rom? Sì. Sì, sì. Cioè, Parenzo, allora io voglio dire una cosa, no, chiaramente lo pensi per davvero, cioè pensi che debbano scomparire perché sono degli esseri cattivi, brutti, pericolosi, eccetera, eccetera, giusto? Sì. Non so in che modo possano scomparire, però o bruciarli, mandarli su un altro pianeta, in qualche modo, sì. Ora, Parenzo, di fronte a questo, come reagire? Come reagire? Dicendo che è una merda questa qua, dicendo che fa schifo, dicendo che è una cosa schifosa, razzista. Reagisci così, va benissimo. Io penso che in uno Stato democratico come il nostro ci sono delle leggi per intervenire, perché intervenire vuol dire sanzionare, perché cose come queste vanno, secondo me, sanzionate. Tu pensi di noi che c'è la libertà? No, ma io non lo penso, non ho detto questo. Avanti così, ho capito. Valentina, sei fidanzata tu? Sì. 30 anni, già sei fidanzata, amica mia. Sì. Ma la vita non è meglio se uno è un po' più libero fino a, cioè, ne so, 30 anni, 35, ti diverti? Tradisci il tuo fidanzato? No, sono stata libera fino a poco tempo fa. Tradisci il tuo fidanzato o sei monogama di solito? No, sto con lui e basta. Di solito sei monogama? Sempre, non di solito. Sei sempre monogama. La monogamia è una brutta bestia, però, eh. Lo so. No, lo so. Va bene. Fai parte, diciamo, di quella minoranza, in questo caso minoranza... Sì, minoranza che pensa. Siamo in poche. Sei un po' tutte mignotte, dici te, no? Comunque, o mignotti quando si tratta di uomini, perché... Sì, ma perché è giusto. Ad esempio, esatto. Puttaniere tremendo, no? Abbastanza. Si diverte. Cara amica mia, un piccolo ritratto di società padovana abbiamo fatto. Grazie, Valentina, grazie. Ciao, okay, ciao. Grazie, buona serata. Ciao. Manuel, provincia di Lucca, dai, Manuel, vai. Dato che il 50% della popolazione italiana, sì, ma anche mondiale, ma restiamo in Italia, sì, ha problemi emorroidali. Sì. È una notizia, è un dato di fatto. Sì, allora sì, io, c'è dubbio, forte di 1 milione di ascoltatori almeno della Zanzara, sì, ecco, vorrei rivolgermi al direttore napoletano, sì, ma anche sì, ai vertici RAI, servizio pubblico e quant'altro. Ma noi non siamo RAI, non ce ne frega stimolare. Nulla. Io mi rivolgo innanzitutto al direttore napoletano, sì, per una trasmissione. Quindi proporre una trasmissione interamente dedicata alle tematiche proctologiche. Cioè, ma abbiamo già dato da questo punto di vista, cioè non è che... Sì, però vengono spalmate queste cose sempre sulla Zanzara. Io vorrei invece dedicare una trasmissione intera. Poi se ci sono alle emorroidi, dici? Sì, anche ragadi, anche finito, insomma. Ci ecco, se ci sono problemi di palinsesto, io pensavo, ho fatto una riflessione, sì, si potrebbe togliere il falco e il gabbiano. Dunque togliere una trasmissione sembra quella di Nicoletti. No, ogni volta salta fuori questa cosa che la mia voce assomiglia a Nicoletti, ma non solo Nicoletti. Allora Manuel, la realtà è questa: tu proponi il tema importante centrale delle emorroidi o dei problemi anali, diciamo, dei problemi che riguardano il culo. 50% è importante, certamente è importante. Fate presto, si potrebbe dire, intervenire sulle emorroidi. Sì. E io ti mando a fare il culo e diamo la linea. Va bene, non c'è problema. Sì, tanto siamo in tema, no? Sì. Fermi tutti, fermi lì. Maurizio Varese, vai. Insomma, uno schifo. Sì, Maurizio Varese. Dimmi, Barisoni un cazzo, è Cruciani. Sì, anche, dai. Va bene. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. La mia fidanzata mi ha appena detto che per addormentarsi ascolta il mio respiro. Io invece ascolto la Zanzara. Se il mio ragazzo sa che ascolto la Zanzara, mi lascia. Tutte le sere vado a prendere mia figlia da ritmica alle 7:30. Quando esce, la Zanzara manetta e mi dice: papà, ma dai, non puoi ascoltare sti tipi qua, dicono sempre le parolacce. Ok, per 3 sere di seguito non ho messo la Zanzara quando c'era mia figlia. Alla 4ª sera mi ha detto: papà, ma perché non ascoltiamo quei tipi lì che dicono le parolacce? Va bene, al primo vaffanculo si è messa a ridere, al primo figlio di puttana, troie. Papà, ma lo posso dire alla mamma? Ma va, figurati, non dire niente. Allora è un segreto che rimarrà tra di noi. Mia figlia c'ha 12 anni. Siamo all'over the top! E io andrei da questa baby tifosa che si chiama Gaia. Gaia, quanti anni hai? Fatti vedere che sei meravigliosa. Dai, fatti vedere. Dai, sì. Gaia è timida, molto Gaia timida. È timida, ma qui sopra, sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia? Mugazzo. Ah, è un succiariello. Bippiamo. È la bambina molto timida. Cosa c'è, Gaia? Mugazzo. Allora, la cosa incredibile di questo piagnisteo napoletano, caro David, è anche questa. Primo, il sindaco De Magistris che parla di vergogna, della vergogna. Posso dirti qual è il mio interesse per questa vicenda? Ma no, ma è importante, una no, cosa posso, popolare. Posso, ma che cosa ti interessa se no? Che cosa ti interessa? Posso dirti qual è ma il che mio cosa interesse ti interessa se no? Per altrimenti i tifosi del Napoli che ma si sentirebbero rubati, traditi dalla solita Juve. Vuoi sapere vabbè, qual allora è interessati delle divisioni del PD. Bravo, interessati delle primarie del PD. Vuoi sapere qual è il mio interesse? Sì, va allora, bene. Faccio sentire, guarda, fammi sentire, se l'audio dai, lo fammi sentire, sentire. Fammi sentire. Allora, questa è una porta. Sì, la porta fammi sentire radio la porta, che sì. Si apre. Sì, bene. Si chiude e vado via. Sì, ma che cazzo c'entra? Dai, su, ma sei ridicolo. Comunque il sindaco De Magistris dice: io non parlo da tifoso. Ma De Magistris pensasse appunto alla situazione che c'è a Scampia, no, alla situazione che c'è bravo, in giro bravo, per la bravo città. Vedi che qualcosa puoi dire, vedi che qualcosa puoi dire. Vanno in tre in motorino, allo spaccio della droga, alla illegalità diffusa, non a cosa a fare fa il capopopolo dei tifosi. Il Napoli, va bene, ci penserà De Laurentiis. No, no, ma la cosa incredibile che ha detto anche parlo da tifoso, poi pubblico sì una nota nel sito ufficiale del comune dicendo che è una vergogna, siamo accanto alla città, alla squadra, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Buffonate tremende. E se gli diamo il miglior giocatore che abbiamo? Come facciamo una scommessa? Si vede per tutta l'Italia questo. Sembra se Higuain va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e il mio erede questo qui. Medaglia l'uccello. Cominciamo a portare lo scalpo, amico mio. Cominciamo a prendere il bisturi. Cominciamo a prendere il bisturino, a fare una piccola incisione. Una piccola incisione. Allora, dove siamo? Marco da Roma. Vai, Marco, vai. Buonasera, ragazzi, come state? Vai, vai. Beh, ce la caviamo qui. Combattiamo, vai. Allora, io volevo... Dove sei? Aspetta che sento male. Dove sei? Dimmelo. Sono in ufficio ancora, ragazzi. Ho capito, però c'è una cosa che si sente un rimbombo, dai, su. La vai, allora, vai dritto, vai. L'argomento sono i Rom, ragazzi. Allora, se mi date un minuto faccio una premessa. Secondo me quello che ha fallito sui Rom è la società che ci rappresenta, perché è il degrado sociale che li accompagna, che li porta insomma a vivere in una condizione che sicuramente non è la loro. Sì, però Marco, cosa vuoi dire? Spiegami. Allora, non cominciare a fare analisi sociologiche, perché altrimenti ti devo rimandare ad altre trasmissioni, ad altri convegni filosofici. Ho assistito a uno scippo mentre ero in auto. Vabbè, gli scippi, i Rom, di che tipo di scippi parli? Tutti i giorni. Sì. Però quello che io non ho saputo è gestire la mia reazione. Ma chi erano Rom, questi qua, Rom? Un ragazzo verso una signora. Un ladro, possiamo chiamarlo un ladro, sì, teoricamente. Vabbè, se no, altrimenti di che parliamo? Se parliamo di Roma, parliamo di Roma, altrimenti i scippi era la Roma. Scippo di che tipo? Di etnia Rom. Allora, io ero in auto e la prima cosa che ho potuto fare mentre questo qui strattonava la borsetta alla signora è stata quella di suonare con l'auto, di dirgli fermati. Questo qui, quando si è visto in qualche modo attenzionato dalla mia attenzione e di quella grazie agli automobilisti, ha lasciato la borsetta e se n'è andato come non curante, come se il fatto non gli appartenesse. Un'altra persona dietro di me è passato con il rosso e là ha cercato di intercettarlo per fermarlo, con il risultato che lo stava per investire. Questo qui, con un salto alla olio cuore, è saltato sulla macchina e poi si è infilato su una via. Dunque? Su una via. Come? Allora, tu questo racconto per dire cosa, amico mio? I racconti devono avere un loro significato. I racconti per dire che, in buona sostanza, io non ho saputo reagire, perché per me la cosa più importante era quella che di fermare il furto. Vabbè, ma allora? poi alla fine dico, se oggi avessi avuto una pistola, cosa avrei fatto? Avrei sparato a Roma? Non lo so. Che cosa avresti fatto? L'avrei inseguito e l'avrei messo sotto quella macchina. Sì, ma questo racconto che cosa porta? Quale conclusione porta? A condividere un pensiero. Qual è il pensiero? Io non ho ancora capito qual è il pensiero, però. Il pensiero è quello di dire come si reagisce. Ma io che ne so come si reagisce, ognuno reagisce come vuole. Tu come reagiresti, per esempio? Io ho reagito che dopo fatto 100 metri mi sono fermato alla caserma dei carabinieri e ho raccontato il fatto. Bene, Nicola da Perugia. Bene, sì, certo, c'è un modo di reagire, diciamo che a un certo punto uno si ferma, va dai carabinieri, oppure uno che insegue fino ad ammazzare questi o cercare di ammazzare questi. Nicola da Perugia, vai, forza. Pronto? Ciao, niente, intanto volevo ringraziare quelli del centralino che sono stati gentilissimi, mi seguono da ieri, ok. Vabbè. E poi volevo dire, io sono d'accordo con Parenzo perché ho lavorato a Padova e a Verona, purtroppo il livello è questo, sono super razzisti. E non tutti, non tutti, sono a Padova, non è una città razzista, assolutamente. Te lo assicuro, il livello medio è questo, però ti devo disilludere. Sul discorso dei rom, perché ieri ho sentito quello che era fidanzato con una rom, no? E ha detto una cazzata, perché io sono stato con una rom e non è come una rom che vive in un campo? Sì, quindi scusa, come hai fatto a fidanzarti con una che vive nel campo? Così questa mi aveva letto la mano, mi aveva fregato dei soldi, poi E poi ti ci sei fidanzato. È nata una scintilla, sì, ma è tutto nella massima. È nata una scintilla con la rom che mi ha derubato. Sembra una roba di. Cioè, un racconto incredibile, dai, insomma, come si fa? Dai, amico mio, una che te legge la mano e poi te la fai, ma che. Sì. Vabbè. Sì, tanti anni fa è successo. Vabbè, allora. No, niente, sono tutte. È tutta verità. Cioè, ti dico, quello che ha detto ieri sono tutte cavolate, perché in realtà tu non puoi. Scusa, ma come funzionava la cosa? Perché non puoi fidanzarti con la Rom? No, è impossibile. Se i Rom si accorgono che tu stai con una Rom, lei viene sfregiata e tu vieni ammazzato. Cioè, ti assicuro. Quindi, non quello che ha detto ieri. Cioè, se tu se si accorgono che sei fidanzato con una Rom, finisci male. È impossibile che tu. Te credo. Cioè, funziona. Oddio, funziona anche non solo tra i Rom, in alcune famiglie camorristiche, mafiose. Se sgarri con la donna, se sgarri con la donna, ti ammazzano di brutto. Dai, diciamo la verità. Negli Emirati Arabi. Va bene, Andrea Treviso, vai. Come è funzionato la storia? Come ti sei lasciato? Ti hanno minacciato? Che hanno fatto? No, ti voglio dire che quello che pensa lui dei Rom è sbagliato, perché in realtà all'interno dei campi Rom c'è proprio una scuola di furto, cioè loro c'hanno una scuola di ma di mi furto. Pare chiaro che c'è una scuola, cioè, ma è una specie di una scuola, io non so, sei fidanzato, sei fidanzato con una che stava in un campo Rom. No, ma io non posso difendere i criminali, né mai li difenderò, ovviamente. Dico semplicemente. No, ma io sono d'accordo con Parenzo quando dice che questi di Paro che sono dei cretini e sono dei razzisti, però che dentro c'è una scuola di furto, è appurato, cioè lì non esiste la parola lavoro, cioè in realtà loro si danno dei nomi legati ai ladri storici, no? Ad Arsenio Lupin, il gatto, cioè sono degli acrobati pazzeschi e fanno tutti i furti con destrezza, non sono degli omicidi, assolutamente non sono degli assassini. A meno che ribadisco, non ti beccano, ti trombi una però vivono nell'illegalità più totale, ma mi sembra totale, assoluta, cioè loro e non gliene frega niente di fare altre cose, cioè non è che gli offri un lavoro da impiegato da qualche parte che ti devi fanculo così soffrire e ricevere istruzioni da uno che ti dice senti portami un attimo il caffè o portami un attimo quella cartuccia là col cazzo. Per Parenzo che è ancora convinto che diciamo nei campi rombe esistano persone oneste, ma è un altro tipo di cultura, se lui non ci entra dentro, non li conosce, non si rende conto. Ciao. Allora ragazzi, con mia grande soddisfazione, nei giorni scorsi un vescovo in Bosnia, sentite quello che vi racconto, un vescovo, quello di Mostar, città della Bosnia, ha detto che la Madonna non è mai apparsa a Međugorje e che il business delle apparizioni è una grande manipolazione dei fedeli operata dai veggenti che sostengono di vedere la Madonna ogni giorno. grande scandalo. E per questo grande scandalo abbiamo in collegamento, proprio dalle strade della Bosnia, il mitologico Paolo Brosio. Paolo, come stai? Ecco. Ciao a tutti, ciao. Come ciao. Andiamo, Paolo? Ciao, dimmi la verità. Ciao. Tu ti ribelli a quello che ha detto il vescovo? Che succede lì? È tutto un imbroglio, come sostengo io d'altra parte. Cioè, che dice il vescovo? Come ti metti con sto vescovo? Ma tu quante volte sei stato in Bosnia? No, amico mio, io non ci sono mai stato, ma io non credo alle apparizioni. Cioè, ho capito, allora, ma io non è che. Vabbè, la mia è una posizione, come dire, quasi radicale, no? Illuminista. Cioè, io non credo che ci sia. Tu hai mai visto la Madonna? Senti, io penso una cosa: che questo vescovo sono esattamente dal 92 che dice le cose che ha detto ieri. Quindi, fondamentalmente non è una novità, è dal 92 che lo dice. Vabbè, prima lasciamo di lui, perdere quello che ha detto dal 92. No, lasciamo perdere un tubo. Cioè, prima del 92, dall'81 al 92 ce n'era un altro che si chiamava, perché ora è nato in cielo, se n'è andato, sì, è si morto. Chiamava Pavao Zanić, Monsignor sì. Pavao Zanić, anche lui diceva che non era vero. Vabbè, ora, non sarà un caso. No, non è che non sia un caso. Ci sono 42 milioni di persone che vanno a Međugorje da tutti i paesi del mondo, e ci sono molti vescovi che invece credono che vanno in pellegrinaggio a Međugorje. Sì, ho capito, ma perché ha detto queste cose allora? Dammi una spiegazione. Cioè, Ma è semplice. Il primo vescovo, il 25 luglio 1981, festa di San Giacomo. No, ma dimmi questo qua, perché ha detto disse, così. Disse, è tutto vero, il primo vescovo, i bambini non possono mentire. Poi, dopo 15 giorni, la UDBA, la polizia segreta di Tito, della ex Jugoslavia, che non c'è più, arrestò. Vabbè, all'epoca però, figlio mio, c'era. No, sì, ho capito, ma io voglio capire adesso arrestò, perché lo dice. Arrestò il parroco di Međugorje che era favorevole all'apparizione e mise tutti i veggenti, bambini di 8 anni, 11 anni, 12 anni, in una camera di sicurezza dove adiacente c'era una sala mortuaria, dicendo che se non ritrattavano questa verità, cioè questa notizia che vedevano la Madonna, li avrebbero tenuti lì per sempre. Però scusami Paolo, il adesso primo vescovo, sì, però adesso non possiamo fare la storia. No, ma te ti devi fermare, se no non puoi capire le cose. Ho capito, vescovo, ma io voglio capire perché. Ma puoi farmi finire? Sì, dimmi, dai. Il primo vescovo, dopo che arrestarono padre Iozzo, gli dettero 3 anni di carcere, disse, è tutto falso, non è vero. Perché l'avevano sottoposto. Ma allora questo pressioni. Oggi nel 2017, da quel momento in poi i vescovi hanno tenuto questo atteggiamento su Međugorje, che non è un atteggiamento imparziale. Ma è perché lo fanno? Ma perché tra i frati e i vescovi, a parte questo episodio clamoroso dell'81, da cui in poi si è tenuta questa linea contro Međugorje, c'è sempre stata una frattura insanabile. Sì, d'accordo, una cosa interna. Però il fatto che questo dica delle cose così chiare sul fatto che non esistono le apparizioni... Ma le ha sempre dette! Non è una novità! Allora, però, amico mio, però dimmi una cosa, dimmi la verità. Tu quante volte la... amico mio, il Papa adesso sta mandando un inviato speciale che è arcivescovo... Vabbè, per fare cosa? Ma come, per fare cosa? L'avrai letto sui giornali che il Papa ha mandato un inviato speciale per verificare tutta la situazione di Međugorje, in particolare quella pastorale. Ecco, per verificare. Io voglio dire una cosa, ma non tu non esiste un vescovo da 36 anni. Vabbè, guarda, questo è un problema della Chiesa, ma io dico, tu quante apparizioni a quante apparizioni hai assistito? A decine di apparizioni. Cioè, tu hai visto la Madonna? No, io non ho visto la Madonna. E chi, cioè, la ti Madonna fidi? La vedono i veggenti. Tu, la, ti tu fidi sei veggente e tu l'hai vista la Madonna? No, io non l'ho, non figura. Allora, se non l'hai vista, tu credi alle veggenti? Tu hai fiducia nelle veggenti? No, io credo in Dio, io ho fede. Ma che c'entra? Tu credi Dio. In Dio, ma le veggenti dicono di... Quindi io vado in un luogo dove c'è una grazia infinita, perché in un luogo c'è la grazia di Dio, una sorgente di spiritualità, lo vedi qui non ci sarà mai, caro mio. No, qui alla Zanzara non ci sarà Vangelo. Mai. D'accordo. A te del Vangelo non te ne frega niente. No, a me ma che c'entra? Questo è un altro discorso, ma però. Cruciani è un uomo scristianizzato nell'animo. Se in un luogo come Međugorje avvengano guarigioni inspiegabili, ma quali guarigioni? Miracolose. Vabbè, e è incontestabile, perché solo nella parrocchia di Medjugorje ce ne sono 677 e 16 casi. E perché avvengono? Perché c'è l'intervento della Madonna? E perché avvengono? Perché davanti a me una cieca è ritornata a vedere? Sì, davanti a te una cieca è ritornata a vedere, così all'improvviso. Certo, caro. È dei quartieri spagnoli. Si chiama Raffaella, è una ragazza di 23 anni. La cieca è ritornata a vedere. Era affetta di una malattia gravissima. Amico una mio, neurite retrobulbare. Non ci credo. La retina, amico mio. Non ci credo. E ora ci rivede, amico mio. Non ci credo, Paolo. Non ci credo. Ma tu non credi a Dio. Ma non c'entra niente. Non è che tutti quelli che credono a Dio credono a Medjugorje, però. C'è un sacco di gente che non crede a Dio, che crede a Dio e non crede a Medjugorje. Scusami. Io non credo. Ma loro non c'è bisogno che ci vadano a Medjugorje. Ci devono andare quelli come. Ma io ho capito, ma si potrebbe perché te verrai su quella collina. Io ben presto. Perché verrò su quella collina, scusami? Perché? Capirai. Ma io speriamo, perché devo venire sulla collina di Medjugorje? Scusa, amico mio. Perché la gente che non crede va là e cambia vita. Ah, come ero io. Sarebbe molto bello che tu, Paolo, riuscissi a portare questo schifo. Ma lui ci deve andare di corsa. Ma dovresti portare. Guarda, ti assicuro, io pagherò il biglietto per vorrei che tu lo portassi. Ma io se andassi con Cruciani sulla collina. Ma magari. Ma questo cambia. Ma io non vita, ci voglio guarda. Andare sulla collina di Medjugorje, amico mio. Non ci voglio andare. Ha un tenore, ha uno stile di vita che definire, voglio dire. Ma adesso io non posso insegnare. Ma no, amico, ti posso dire, io non posso insegnare niente a nessuno. Ma il signor Paolo Brosio ha detto. Ma stai parlando, Paolo, con un signore che incita a fare non scambi di coppia, ma ammucchiate 4+4. Ma va bene, uno schifo colossale. Ma caro mio, lo fa dalla radio della Confindustria per giunta, di parlare di all'ammucchiate. Sono una cosa. Tante volte in questi peccati, anche tu facevi l'ammucchiate. Sì, certo, l'ha fatto. No, lui ha sostenuto. Aspetta, Paolo, scusa un attimo, perché qui è importante. Perché Parenza ha detto una cosa. Aspetta un attimo, scusa, Paolo. Tu hai detto in una recente intervista che in un'orgia hai visto la Madonna. No, ma quale orgia? Ma come no? Ma non certo, ho recitato in un'orgia l'Ave Maria, l'ho letto sul Libero. Ascolta, parliamoci chiaro. Dove l'hai letto? Sul Libero. Beh, io qualche sospetto ce l'ho. La mia vita è stata molto libera. Scusami. Quando te cambi vita, poi. Sì. Soprattutto grazie alla preghiera, certi peccati, ma non solo questi, anche per esempio il peccato dell'orgoglio, della presunzione. Vabbè, l'orgoglio adesso non è che uno l'orgoglio e la presunzione va a Medjugorje. Paolo, io però voglio capire eterni, questa cosa qui è vero che hai visto tutti dei fenomeni, è vero che facciamo la spina alla vita, facciamo gli aborti, unioni civili, di tutto. Ma perché adesso tutto non va bene, non vanno all'uomo. Bene manco i gay tutto adesso, l'unione civile tra i gay non va bene adesso per te. Ma tutto è permesso all'uomo. No, un momento, non l'equiparazione al matrimonio naturale. Adesso è diventato pure così, dalle orge sei passato pure noi gay, ma no, ragazzi, ecco, ma mi scrive Cannuna, dia Cruciani che se va andiamo insieme. Ma non diciamo cretinate, diciamo che cambia la vita. Scusa, cambia la vita, sei anche contrario all'aborto adesso, sei pure contrario all'aborto adesso. Ah, perché secondo te l'aborto è una cosa bella. Ma non ho detto che è bello, sei contrario all'aborto adesso. Tu vuoi far passare l'aborto come cosa? Come una conquista, un diritto civile? Assolutamente. L'aborto che è cos'è? La schiavitù della nostra società. La schiavitù, togliere la vita a una persona. Tu vuoi sostituirti a Dio. Ma cioè, Dio tu che vuoi cosa? Decidere te se una persona nasce o non nasce. Ma io no, ma io che ho deciso di mettere. Ma io non ci sto più. Non ci sto più. In Italia funziona così. In Italia però funziona così. Nella Repubblica Libera di Medjugorje funzionerà come dici tu. In Italia funziona che c'è l'aborto come legge, scusami. Allora, ci mancherebbe. Ti do un consiglio, ma vacci veloce a Medjugorje. Ma io penso che l'aborto sia un diritto. Vabbè, allora, scusa un attimo. Io voglio capire una cosa. Ma è vero o no che tu in un'orgia hai recitato l'Ave Maria? Paolo? Sentite. No, ma l'ho letto da qualche parte, te lo sto chiedendo, allora, scusa, rispondimi. Allora, senti una cosa. Dimmi. Nella mia vita, io non ho mai pregato come te. Sì. E ho pensato che il sesso fosse la cosa più libera, più bella da fare. Assolutamente, assolutamente. Quindi. Appunto, che cosa è accaduto a un certo punto? In maniera molto libertina. No, ma quello d'accordo. Peccato però che a un certo punto nella mia vita ho sentito la necessità di pregare. No, ma questo va bene, preghiera, ma questo questa preghiera mi ha portato in quel luogo lì dove tu non sei mai andato. Ma questo d'accordo, voglio capire se è vero o no, che tu hai Io ti consiglio. Ma questo l'ho capito che... Primo, non ho mai visto la Madonna. Secondo, non ho mai partecipato a orge. Ho avuto più donne. E questa per me è una condizione. Hai recitato un'Ave Maria durante anche quando ero sposato. problema grave è questo, che oggi non ci si rende neanche più conto. Adesso pure... che quando uno è sposato in chiesa, sì, che fa? L'adulterio è un peccato gravissimo mortale. Da, certo, da punire con la legge, secondo te? Da punire? Senti. È il peccato che ti si incancrena nella tua anima, caro mio. Io voglio capire una cosa. E questo è il problema. Questo problema, se tu non senti nella coscienza questo peccato, fai come ti pare. No, va bene. Ti consiglio vivamente di fare una passeggiata da quelle parti. Allora, fermi perché tutti. Perché ti cambia la vita. C'è la pubblicità, c'è una bella battaglia con Paolo Brosio perché siamo su posizioni completamente diverse, ma Paolo è abituato alla grande battaglia nella sua vita, alle grandi battaglie, alle grandi discussioni. Fermo ancora lì un attimo, dalle parti di Medjugorje, dove uno ha detto che è tutto un imbroglio, mentre Paolo Brosio dice che è tutto vero. Quando è che chiudete, cornuti? Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Stamattina mi sono svegliato, ho fatto l'amore con la mia ragazza usando la tecnica minima penetrazione, massima estrazione dell'ottimo dottor Bossi. E ora sono qui nel letto che ascolto la Zanzara mentre lei mi sta preparando un'ottima colazione. Siamo al top. È possibile avere delucidazioni sull'ano allo zenzero proposto dai froccioni che ti avevano chiamato? Grazie. No, andiamo a sprecare lo sperma. Siamo cattivissimi. Al top. Vabbè. Allora, ragazzi, il collegamento praticamente da Medjugorje, Paolo Brosio, l'immenso Paolo Brosio, il quale però non può negare di aver detto queste parole qui. La coca è terribile, ti fa sembrare possibili cose che non potresti neanche immaginare. Una notte a Torino mi è come esploso il petto, sentivo il cuore che pompava da matto, solo che non era il cuore, era la coscienza. Una voce dentro diceva prega, di l'Ave Maria. Ero sconvolto, anche perché tutto succedeva in un momento di divertimento esasperato, cioè un'orgia. Il giorno dopo ho chiesto in albergo qual era il santuario più famoso di Torino. Mi hanno mandato alla consolata, dove ho incontrato Don Ferruccio, uno degli strumenti che Dio ha regalato alla mia salvezza. Mi sono confessato e gli ho raccontato la mia vita, tutta. Uno shock. Dunque, è vero che tutto è successo durante un'orgia, Paolo? Non era un'orgia. Non era un'orgia. Quello non è quello che ho scritto io. Aspetta, comunque, alza la voce, sennò non te sento, Paolo. Sì, ma ecco, perfetto. Adesso il viaggio non è facile né per me sentirti né per dire le cose. Ho detto che non si trattava di questo. Queste non sono le parole che ho scritto esattamente nel mio libro. Comunque è inutile andare a vedere la virgola o la cosa. Sono cose che ho già detto 100 volte nel 2009. Ok? Sì, ora, però la cosa. Sono stati. Come mi fai sentire parlare? Dimmi, dai, però non si sente. 25 anni di Tangentopoli. Mi hanno chiamato tutti, perché tu ricorderai bene. Sì, però si sente l'auricolare, scusa, togli l'auricolare, Paolo, se no non si sente. Non ho l'auricolare, non vabbè, ce l'ho. Dai, dai. Chiama il Vescovo di Mostar, se non ci credi. Ma che c'entra il Vescovo di Mostar? Cioè, adesso, sempre in bocca. Ma il Vescovo di Mostar ha detto una cosa corretta, secondo me. Ma lui ha detto una cosa corretta. Ma un Vescovo della sua diocesi, no? Dove Medjugorje, in controtendenza al mondo, dove non c'è più fede, nessuno va a pregare, tutto il mondo va lì, e si accanisce contro Medjugorje. Vabbè, la cosa che voglio capire da te però è un'altra. Io penso che lui è arrivato a 74 anni, forse sarebbe meglio che andasse in pensione. Sì, adesso vuoi mettere in pensione i vescovi adesso. Non si può mettere in pensione. No, ma la cosa gravissima è che lui è venuto meno, cioè i suoi doveri pastorali. Vabbè, ma questo vabbè, lasciamo perdere. 40 milioni di persone sono andate lì, non è mai andato né a dire una messa né a. Io voglio capire, per esempio, l'eutanasia. Si è parlato molto di. Paolo. Si è parlato molto di eutanasia. Allora, quello che ha fatto quel DJ per te è una follia o no? Secondo te è una follia, evidentemente, perché se si segui. Ma il vescovo di Medjugorje. No, ma lascia perdere, voglio capire. In un anno si va una volta. Ma non me ne frega niente del vescovo di Medjugorje. Voglio capire da te se è DJ Fabo. Se Fabo ha fatto bene oppure no. Oh. Io penso che Fabo sia una sconfitta di tutti noi. Vabbè, ma la sconfitta ha fatto bene oppure. La sofferenza di una persona se arriva a quelle estreme conseguenze, vuol dire che noi non gli siamo stati vicini. Vabbè, d'accordo, ma che vicino, ma quello si scia... ma quello non è che gli passava il dolore. Ma perché uno deve soffrire? Non ho mica capito. Allora, perché mica c'è... L'accanimento terapeutico non è ammesso neanche dalla. No, ma ho capito. Ha fatto bene ad andare in Svizzera a suicidarsi, sì o no? Dio, non l'uomo. La vita la toglie Dio, non l'uomo. Ma che la toglie Dio? Se uno se la può togliere, il corpo ci appartiene, mica appartiene. Ascolta, a Dio, Paolo. Come vuoi, io ti do un consiglio. Vai in Svizzera, domani vai alla vita. Ma perché io? Ma non mica mi voglio ammazzare. Ma mica mi voglio ammazzare. Allora, ma no. Non ci si può sostituire a Dio, ragazzi. Non ci si può sostituire a Dio, no. Dai, su. Prima di tutto, senti, tu la massima misericordia con tutte le persone che sono nella difficoltà. Siccome non sento un cazzo, ti voglio chiedere un'ultima cosa. La droga leggera la legalizzeresti o no? No, le droghe, basta. La droga leggera, la legalizza o no? No, ma non ci sono molti altri farmaci e non si deve legalizzare la droga. Perché non ragazzi, si deve legalizzare. Vabbè. Con la droga non smettono più. La libertà della droga è una schiavitù, come il sesso. Vabbè, ciao Paolo, non sento più niente. Ciao, non ciao, ciao. C'è un miracolo qua. Allora andiamo a Massimo Milano, vai. Sì, vabbè, Paolo Macerata, dai. Paolo. Sì. Vai Paolo, dimmi. Ma dopo Brosio c'è poco da dire. La vita appartiene a Dio. Ancora con questa storia. No, completamente. Ma... il filo di intelligenza che no, ma che lui ho, ovviamente lo può dire, lo può pensare, lo può urlare, dopodiché è diritto di, e quindi potrà non usufruire del diritto alla buona morte, no? Come per l'aborto, uno dice sono contrario all'aborto, benissimo, sei contrario all'aborto, non tu abortire. Ma non abortire, nessuno ti obbliga di abortire, ma qualcun altro magari lo vuole fare, ha il diritto di farlo, come per il divorzio, come per tante. Vabbè, Paolo, altre allora... ragazzi scusatemi, sono stanco e avevo qualcosa da dire in merito a a me che cazzo mi frega che sei stanco, scusa, non ho capito. No, te lo dico perché poi arrivo al dunque. Beh, è stanco, vabbè, prendiamo atto che sei stanco, d'accordo, anche noi siamo stanchi, alle 20:06. Ho perso il filo di quello che volevo ma dire, non lo so, ne approfitto solamente per dirvi che sono tornato a casa in questa cazzo di valle di lacrime piena di terremotati come me, quindi se fate diciamo un appello per dire noi siamo ancora qua e cerchiamo di lottare contro tutti perché siamo nella merda, ragazzi. Ma chi e è non nella lo merda? Non ricorda nessuno, gli abitanti di questo paese. Ma quale paese? Ma sarei tu nella merda? Io non sono nella merda. Vabbè, che vuol dire? I terremotati, certo. Ma i terremotati stai dicendo? Ah, ho capito. Che ne so, io non avevo capito. No, vabbè, allora capisci meglio. Io sono un terremotato. Se non ti spieghi. Sei un terremotato. Ecco, vabbè. No, pensavo che dicessi in generale siamo tutti nella merda, eccetera. No, sto dicendo, sto rientrando a casa da un viaggio fuori, rientro a casa mia, che ovviamente è 40 anni che ci sto, vedo gente triste perché ovviamente non posso farti vedere quello che vedo io. Siamo in un mare di merda, si è di tutti quanti. Ma ecco, ma il governo vi sta abbandonando, vi sentite abbandonati? C'è certo. A te la tua casa è danneggiata oppure no? No, sono stato fortunato, no. Però c'ho molti familiari in giro. La situazione è drammatica. E sentire uno che dice lo metto nelle caldaie, mi viene da piangere. Vabbè, sono due cose diverse però, Paolo. Sì, è per dire che c'è un livello proprio bassissimo. Ecco. Vabbè, qua, Vladimiro, magari... provincia di Roma. Ciao Paolo, Vladimiro, provincia di Roma. Sì, Peppino, eccomi qua. Ciao, Vladimiro D'Anzio. Ciao. Senti, abbiamo cambiato discorso, visto, no? Però mi ricollego a quello che è stato detto all'argomento iniziale. Qual è? Le famose docce del buon Parenzo, ma io mi chiedo, sto ragazzo qua, il buon Parenzo, no? Dico, ma cosa mangia? Chi frequenta? Cosa fa? Ma dico, per puzzare così tanto, no? Per sua stessa missione. Voglio spiegarle questo, se lei si informa anche con persone a me vicino che mi conoscono, le diranno tutti che io, ad esempio, a differenza di molti, non sudo neppure d'estate, cioè non ho questa cosa della sudorazione né alle mani, né alla... Però nonostante questo, io tutte le mattine, per sentirmi io pulito, mi faccio tutte le mattine la doccia. Male, molto male. Ma non puzzo di mio, ha capito? No, ho usato un termine grosso, no? Però ci volevo. No, ora posso anche chiedere scusa, no? Ma però, non devi chiedere scusa, è spontaneo pensare questo, perché voglio dire, se uno ha questa esigenza di lavarsi tutti i giorni, il fisico non ha bisogno, non sente l'esigenza di lavarsi tutti i giorni. Ah, tu dici, siccome tutti i giorni si lava... Se tutti i giorni si lava, strane, ci sarà una ragione. Questo non c'è bisogno di sprecare acqua, non c'è bisogno. Vabbè, di ma uno lo fa l'acqua. Se uno se lo vuole fare per avere la sensazione addosso. Senta, claro, caro Vladimiro, sì, Vlad. Caro Vladimiro, si faccia i cazzi suoi. Perché? Cioè, venire qui per dire quante volte mi devo lavare io mi pare un tempo mal sprecato. Cioè, se lei ha usato, scusi, il numero 800 24 00 24 per dire, per criticare la quantità di docce che faccio io, non è sbagliato. È un mondo che gira al contrario. Cioè, nella normalità, lei dovrebbe dire: guardi, non la va. Però, per carità di Dio, andiamo avanti così. Parlavo, è lo spreco. Io so, l'argomento è lo spreco dell'acqua. Adesso lo spreco, a me non me ne frega niente. A me l'acqua, ragazzi, a me non piace proprio l'acqua. Questo è il punto fondamentale. A me avere addosso l'acqua mi dà fastidio. Questo si vede, francamente, anche si sente. No, si sente. Non ti preoccupare. È pura, cioè lavarsi. È una libidine pura. Allora mettiamola così, Mister Parenzo, mettiamola così. Cioè, mi piace godere quando sono sotto la doccia, ma non mi si venga a dire che lo si fa per pulizia. Fermo Vladimiro, fermo, ciao. Che ne pensano secondo te i tifosi del Napoli di questa, i club dei tifosi del Napoli di questa situazione, cioè di questo pseudo furto, presunto furto subito a Torino ieri sera? Andiamo a sfrucugliare un po', caro Parenzo, andiamo a sfrucugliare i Napoli club. Pronto? Napoli Club? Sì. Insomma, avete ricominciato il vostro solito pianisteo. E arbitri contro di noi, rigori contro di noi, il mondo ce l'ha con noi, ma basta. Un attimo, intanto voi chi siete? Ma cosa ti frega chi sono? Basta. Tu sei il classico juventino razzista di merda. Pensate a pagare le tasse. Le tasse pagate. Non lamentatevi. Non lamentatevi. Siete palesemente inferiori. Ma capito? Palesemente inferiori. Pronto? E parlo col Napoli Club? Sì, Perché ogni volta che perdete le buscate... Ma non ci rompete il cazzo, vaffanculo. Pronto? Parlo col Napoli Club? Certo. È inutile piangersi sempre addosso quando le beccate. Questo è il punto. Voi ricominciate solita solfa. Tu sei uno sporco juventino. E allora? È un'intimidazione che mi vuole fare. Che vuole ma fare? Ma che intimidazione? Voglio solo dirvi... E allora gli scalzo, cazzo, stupala! La conosce quella canzone? Bisogna saper perdere. Piuttosto... No, cazzo, non ti permettere più di chiamare questo Pensate numero. Piuttosto a pagare le tasse. Pronto? Napoli Club? Sì, non posso gridare tanto che sto in chiesa. Sta facendo le preghiere per il Napoli. No. Beh, c'è solo da pregare ormai. Sto facendo le preghiere per mandarvi in finale a voi, è diverso. Dai, ti aiuto, recitiamo una preghierina, un Pater Noster per il ciuccio. Il Napoli non ne ha bisogno. Ah, no. Né il Napoli, né il Napoli e né i napoletani ne hanno bisogno. Perché loro sono sempre stato e siamo sempre stati un popolo che sta al di sopra di tutti. Sei incartato? No, non mi fai essere scostumato, lascia stare, sta cominciando a andare, ci saluta, ciao, frate. Cosa c'è, Gaia? Lugazzo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. La Zanzara. Parenzo, che tu sei il più grande culatore del mondo. sono arrivati i carabinieri con l'ordinanza del sindaco di San Fior. Aspetta, dimmi il sindaco e me lo inculo subito. Come si chiama? No, il sindaco è della Lega. Io vado è uguale. Della Lega. San Fior, come si chiama? San Fior. San Fior. Ordinanza? Arrivano i carabinieri. Sì. E mi fanno: signora, lei devo dare la multa. Di che cosa decido? Sì. Non può stare qua. Chi ha detto? Appunto. 100 euro. Il mio magnaccio. Come il tuo magnaccio? Non ho capito. Il mio magnaccio. Ogni sera viene. Mi fa la multa 100 euro. No, ma tu col cazzo che paghi, naturalmente. Io ma non pago ma neanche a morta. Preferisco dare 1000 euro a un avvocato che me lo toglie. Ma quanti clienti hai fatto oggi? Ma zero di zero. Oggi ma ne ho fatti due buoni. Sì, figurati. Buoni che vuol dire buoni? Buoni? Buoni che significa? Quanti anni? 70, 75? Quanto hai fatto? Come 70, 75? Anni, ma tu fai vecchi, non è che fai giovani. Ma io faccio vecchi, giovani, tutti, eh. Ma quanti clienti hai fatto oggi? Ma zero, due buoni. Ma buoni che vuol dire buoni? Buoni vuol dire che hanno pagato bene. Quanto hanno pagato? 1,70 e 1,50. Neanche 5 euro, neanche 5 euro. No, 70 e 50, cioè. Non mi degradare così, ma non degradare, scusa, perché la tratti così? Non mi degradare, ma anche una prostituta di 75 anni, però, va bene, ma rispetto anch'io il suo lavoro, ma si figuri. Ma ha ragione, scusa, ma a un certo punto posso sopportarti, Parenzo. Va bene. Va bene, signora Lucia, però abbia pazienza anche lei. Più di quanti anni ha lei, signora mia? Ma non ha nessuna importanza l'età. La prostituta hai che capito? Si arrabbia, la prostituta nonna che si arrabbia. Va bene, benissimo, Lucia. Ma nonna. Sì. Ma scusa. Perché io quegli occhi di gufo che hai te li tolgo. Ma quando mai minaccia la prostituta? La nonna prostituta. La nonna, tua nonna vacca. Ma no, no, lei no, nonna, poverina, anzi, anzi. Ecco, la tua nonna poverina. Era una grandissima vacca. Ma, che, ma no, assolutamente, come si permette, signora? Allora come si permette lei di dirmi nonna? Signora, lei... No, pensavo si arrabbiasse perché la chiamava prostituta. Ma se lei fosse direttore del Sole 24 Ore, che titolo suggerirebbe per questa notizia a Roberto Napoletano? Me lo dia lei, così non facciamo errori. Mi dica, qual è il titolo per questa notizia? Ma non fare il puritano. No, ma quale puritano? Chiedo, Parenzo, così glielo passiamo, Parenzo, al direttore. Che tu sei il più grande culatore del mondo. Guarda, quelli che fanno gni sono i più grandi. Sei una checca. Vabbè, vabbè. Sei una checca. Io lo deve sentire sta roba, non me ne frega niente. È una porcheria. Ma è una porcheria sta roba, non me ne frega niente di lei, di quello che fa. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, chiudila sta vecchia qua, basta. Andiamo a Milano da Carla, vai Carla, vai, vai, vai. Sì, buonasera a tutti. Volevo raccontare dell'esperienza che ho vissuto a Međugorje. No, meno male che torniamo a Međugorje. Dopo la nonna. Sì, però non si sente un cazzo, la Carla, nonna, fammi capire nonna, bene. La nonna prostituta. Dai, togliti tutto, togli tutto. Sai qual è il problema? Sono in macchina. E che me ne sbatto? Scusami, amica ho l'auricolare mia. Che non mi va. Ma non devi chiamare con vabbè, l'auricolare. Signora, le do questo consiglio, cara. Lei accosti. Non sto usando l'auricolare perché non retta, va. Io ecco. L'avevo messo il viva voce, adesso ho messo sì, il telefono. No, mi dia retta, mi dia retta. Lei adesso accosti un attimo, metta la freccia a destra, accosti un attimo, metta le quattro frecce. Chiuda la radio, okay, metta il cellulare, ecco, bravo. Un attimino, sì, sì, bravo, eccoci bravo, qua. Metta il cellulare vicino alla bocca. Ho fatto. Mi dica perché, tutto. Se no, altrimenti diventa anche pericoloso. Esatto. Allora, niente, praticamente sono andata a Međugorje, ho fatto anche la mia esperienza a Međugorje, e sono andata con un'amica e suo marito. Sì, vabbè. Allora, che è andata a fare a Međugorje? Io sarò strano, amico mio, come dici tu, sarò strano, sarò bizzarro. Ma perché uno va a Međugorje? Non lo capisco, non riesco allora, a capirlo. Međugorje, come allora ultima speranza, così uno che ne so, è malato. Vabbè, dimmi. Ascolta. Allora dicono che la Madonna di Međugorje è come un richiamo, nel senso ci vai solo se lei ti chiama, tra virgolette. A te ti ha chiamato? Allora, ti diciamo ha chiamato? Che la Lourdes è più magari per i malati fisici, sì. mentre Medjugorje è più per i malati, diciamo, spirituali. Vabbè, quelli che ti ha chiamato sta Madonna o no? Bisogno di spiritualità. Ti ha chiamato allora, la Madonna chiamata, o no? Probabilmente mi ha chiamata. Una mattina ero in macchina, ho sentito dei canti e ho detto, ma che canti sono, che belli. Così, insomma, ho avuto come una sorta di... Ho detto, ma ci voglio provare, anche perché io poi ero un periodo in cui mi sentivo un po'... Cioè, mi succedevano cose strane, per cui ho deciso di andare. Ma perché i canti potevano essere alla radio, signora? Era in macchina, sarà stata la radio? No, vabbè, non so, era la pubblicità forse di un dei pellegrinaggi. La Madonna, uno dice, senti i canti, è la Madonna. E questo, vabbè, comunque, e allora, per carità, è la Madonna. E che allora, no, niente, accompagno, vado con la mia amica, suo marito. Sì. Io eravamo insomma un gruppetto, si arriva lì alla collina, che è una piccola montagnetta, c'era una marea di gente, ci siamo sempre, cioè praticamente ci siamo perse, nel senso loro sono finiti da in una zona e noi siamo finiti nell'altra, questo niente di male. Quando poi ci siamo ritrovati, la mia amica mi ha raccontato cosa gli è successo. Praticamente lei è arrivata lì nel punto, si è seduta su un sasso, perché lì sono pieni di tutto sassi. Si è seduta sul sasso e vicino a lei c'era una ragazza di sui 27 anni, mi ha detto una bella ragazza, ma era lì da sola, cioè praticamente vicino a lei non sembrava ci fossero mamma, papà o fidanzato. A un certo punto che hanno fatto? Sono messi insieme, lei si canta, si prega, così poi a un certo punto c'è il silenzio che appare la Madonna. Appare la Madonna, sì. Allora, ecco, che è successo? È successo che praticamente questa ragazza è venuta. È svenuta. Allora lei, la tua amica o la ragazza? No, la ragazza è svenuta perché avrà avuto un calo di zuccheri. È infermiera professionale, la mia amica ha cercato di alzarsi, di alzarsi chiaramente per aiutarla. Ha detto che una forza estrema, ha detto lei, no, è inspiegabile, ha detto l'ha tenuta seduta, ha detto non riuscivo assolutamente ad alzarmi. Suo marito che era con lei gli ha detto ma fai qualcosa, cioè, e lei immobilizzata serie non riusciva ad alzarsi, va bene, però d'improvviso questa ragazza è svenuta e ha cominciato a urlare, ma suoni gutturali, vattene troia, vattene puttana, riferito chiaramente alla Madonna che stava apparendo in quel momento. Ma, carità, ma, quello, diciamo... ma quello, scusami Carla, ma quello là è il diavolo, è il contrario. Ma quelle sono bestemmie, ragazzi, basta però. E praticamente, perché di fatto i demoni comunque... ma scusa, ma uno va per vedere la Madonna e arriva il diavolo, La Madonna per eccellenza è quella che diciamo scaccia i demoni, è quella che schiaccia anche sotto i piedi il demonio. Ah, tu dici che era in corso una battaglia? Era in corso una battaglia allora, tra il demonio e la Madonna che era lì a Medjugorje. Beh, questa questa ragazza ha strabuzzato gli occhi indietro, ha detto una roba disumana, ma ha detto che urlava in un modo, ha detto indescrivibile. Quindi Mauro da Mantova praticamente è posseduto. Quando è finita l'apparizione, perché l'apparizione in realtà non dura pochissimo, cioè dura il tempo del messaggio, perché lei lascia il messaggio tutti i mesi, il 2 del mese, è durato il tempo del messaggio. La ragazza, come se niente fosse, ti dico, era strabuzzata con gli occhi, aveva sta voce assurda. E si è alzata e poi hai visto che in realtà lei aveva i genitori che erano più in là, col fidanzato, si sono avvicinati, l'hanno presa perché probabilmente sapevano della figlia o comunque della fidanzata che aveva queste cose e l'hanno lasciata lì da sola, cioè l'hanno lasciata lì isolata. Voglio capire. Ho capito, ma alla fine lei, la Madonna, ha avuto questa... No, lei no, la signora... No, la Madonna, in realtà, io, allora, ti dico invece quello che ho provato io dal canto mio, perché io ero dall'altra parte. Ma questa io qua, alla fine, ha vinto il diavolo o ha vinto la Madonna con la sua amica? Questo non si sa, cioè, devo dirti, in quel momento lì lei ha avuto un attacco, che poi, di fatto, ha detto, lì è pieno di sacerdoti, pieno di esorcisti, sono andati lì, hanno detto delle preghiere, delle cose, e questo a un certo punto... E invece tu? E tu, invece? È andata. E tu, Carla? Io invece dal canto mio ero là, sei lì la prima volta, non sai cosa succede, allora? Si canta, si prega eccetera, poi a un certo punto c'era il silenzio, ho detto vabbè sarà un momento di pausa, perché non è che dicono adesso c'è la parola. Vabbè, ma andiamo alla sostanza, Carla. Alla sostanza, io ho sentito, e ve lo dico e ve lo giuro, dice. Ho sentito una fiamma nella schiena, se ci fosse dietro un accendino. Io loro ho detto, ma chi cazzo è dietro con sto accendino? Mi sono girata. mi sono girato e ho detto: ma chi cavolo è che ha acceso? Non c'era, cioè c'era una persona che stava pregando in realtà, non c'era nessuno con l'accendino. Io ho sentito un calore micidiale. Amica mia! E poi chiaramente uno è libero di crederci o non crederci. Per carità, io per me era la spada devo fuoco. Dirti, ho scoperto, poi chiaramente io sono andata a fondo perché ma sarà poi stato io un colpo di calore, Carla, un colpo di calore. Non ci volevo credere, perché dicevo sì, ci credo, ma per l'amor del cielo. Ma era un colpo di calore, che... era un colpo di calore. Sarà stato ho scoperto, perché questa poi parlando con un esorcista, che normalmente quelli posseduti prima hanno questo calo, cioè svengono, e poi hanno l'attacco, diciamo, demoniaco. Vabbè, ma alla fine, che come è tornata da Medjugorje? Io non ce la faccio più. Come è tornata da Medjugorje lei? Io sono tornata piena di vita, piena d'amore, piena di tutto. È convinta veramente che là ci sia l'apparizione della Madonna, sì o no? Ti dico, io ho sentito proprio questo calore. Ma questa pazzesco. È la spada di fuoco! Questa è stata la spada di fuoco! Te lo dico, io sono ritornata l'anno aspetti, dopo. Secondo me è questo, aspetta. E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi, no, ero sicurissimo. Proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Questo stava lì con uno che dice che esceva la spada di fuoco! Ma io tornerei alla questione Mignotte, caro Parenzo. Perché dobbiamo scoprire... Ma io lo voglio scoprire se costano poco o tanto ste puttane a Roma. Il Messaggero sostiene in una grande inchiesta che i prezzi delle puttane sono diminuiti. Si è passati da addirittura 20 euro a prestazione. Il messaggero, 20 euro, 30 euro, 40 euro a seconda. Cioè c'è stata una drastica diminuzione dei prezzi delle prostitute a Roma. Ma verificheremo tra poco. Giorgio da Roma, vai Giorgio. Avanti, ciao Peppe. Vai, dimmi. Sentime. Ma senti un attimo, so giorni che parli di politica, di rom in gabbia, al forno, in eutanasia, ma vogliamo tornare a parlare di figa? Beh, in che senso vogliamo tornare a parlare di figa? Allora, ti dico io. Ti accontenterò tra poco perché cercheremo di fare un grande collegamento, come al solito, i nostri grandi collegamenti per le grandi inchieste della Zanzara. Però, breve. Dimmi. Ascolta un attimo. Puoi lanciare un'inchiesta nazionale tra le nostre ascoltatrici italiane. Qual è? Quando loro sono andate, chi sarà, insomma, quando loro sono andate dal loro ginecologo, ma che è successo veramente dentro all'ambulatorio? Questo si vorrebbe sapere, perché ci sono tanti sospetti e io so. Ma tu sei ossessionato, che vuol dire? Ma la gente va a farsi cura, va a farsi visitare. Una relazione, no, io ho una relazione, so. Una relazione nel in che senso che una addirittura mi ha detto di avere perso la virginità perché è stata smucinata. No, vabbè, ma queste sono cose incredibili. Ma dai. Guarda che sto potrebbero, ma tu vabbè, ma ho capito, ma perché devo lanciare un'inchiesta su cosa succede dai ginecologi? Sì, va bene, interessante, può essere interessante. Ma vedi, perché c'è un mondo sommerso sicuramente di cui non si parla. Mondo sommerso dei ginecologi. Fermo lì. Adesso la voce. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Lo sapete perché Parenzo si accalora così a difendere rom, migranti e via di seguito? Perché se effettivamente noi mettiamo tutto quanto a posto, ma che cazzo fa poi Parenzo? Non fa più un cazzo, perché lui ha sposato questa tesi per fare qualche cosa, perché altrimenti capisce un cazzo. Allora se mandiamo via tutti quanti, rom, negri, migranti, tutti quanti insomma, come li volemmo chiamare, Parenzo non lavora più, perché chi cazzo fa lavorare, capisci un cazzo? Ma vaffanculo Parenzo! Allora ragazzi, direi dopo questa performance apparentemente diminuiscono i consensi. In realtà uscendo per strada, stando a contatto con la gente, col grande popolo, da Milano a Roma, da Racalmuto a Bergamo Alta, da Torino a Palermo, c'è la maggioranza di questo paese che pensa, due punti, Parenzo sta là, combatte il razzismo, la xenofobia, siamo con te, è gente silenziosa, non ha tempo da perdere per telefonare a una trasmissione radiofonica ancorché molto seguita, perché è gente che lavora, lavora nei cantieri, lavora come notaio, come architetto, come professore universitario, lavora chissà anche perché con... non hai detto operaio però. No, ho detto lavora nei cantieri, certamente, appunto, come architetto. Lavora, no, costruisce, fa lavori manuali, fa il falegname, fa l'idraulico. L'altro giorno l'idraulico è arrivato a casa, mi ha abbracciato. Io mi sono spostato perché aveva le mani sporche, ma mi ha abbracciato l'idraulico, mi ha detto grazie. Poi ho detto cosa fa? Mi sta sporcando il vestito, e cashmere, questo, stia attento, caro. Ma ha detto: ma no, ma grazie, grazie per quello che fa, perché io sono con lei. Ho detto benissimo, adesso però continua a ripararmi il cesso per cortesia che si è rotto. Dice: no, ma io le volevo dire, Parenzo, grazie, grazie, siamo con lei. Non chiamo in quella trasmissione perché è più sporca del water rotto, ma io sono con lei, quindi so che siete in tanti. Grazie, arrivederci, ci sentiamo domani sera, buona continuazione. Le mignotte a Roma costano meno? Che ne pensa Susanna, chiamiamola Susanna, dalla via Salaria. Pronto? Susanna, amica mia, sono Cruciani, come stai? Oh, bene, te? Tesoro, dove sei? Sulla Salaria, dove stai? Questa signora. Sì. Hai finito la giornata? No, vengo via io adesso a quest'ora, vengo via. È successa una cosa clamorosa. Cioè, che è successo? La polizia mi ha fatto una multona da 3.300 euro. Beh ragazzi, attenzione, fermi tutti, 3.300, come mai 3.300 euro di multa? Perché oltraggio al pudore, perché dicono che vado col culo troppo scoperto. Ma stai dicendo sul serio o no? No, è verità, me l'hanno fatta lunedì 20. Lunedì, attenzione, lunedì vabbè, 20 ragazzi. Febbraio, lunedì 20 buonasera, febbraio. Buonasera Parenzo, scusi che non la saluto mai. Buonasera signora, buonasera a lei, buonasera. Cioè scusa, hanno fatto bene Parenzo secondo te? Ma lo dico certo, non allora. Siamo in una repubblica islamica, quindi, però voglio dire, se una c'ha troppo il sedere fuori, francamente, insomma, dai. Hanno fatto bene. Ah no, devi avere il coraggio di dire, secondo le tue convinzioni. Non so quanto aveva i centimetri, ragazzi, sto qua a misurare la gonna della signora o gli atti osceni in luogo pubblico, però... Avevo il collan 50 denari, che non è tanto coprente, però non è neanche velato. Se vedeva il culo, dai, dimmi la verità. E sopra avevo il calzoncino, che quello lì corto che metto d'estate. Il poliziotto però è stata colpa mia, perché svariate volte mi ha detto: Susanna, mettiti il un po' più pesante, perché non puoi girare così, guarda che ti faccio il verbale. E me l'ha detto una volta, e me l'ha detto due volte, e me l'ha detto tre volte. Alla quarta che mi ha beccato così, mi ha detto: basta, ferma, dammi il documento e ti faccio il verbale. E alla fine come fai a pagarsi 3.300 euro adesso? E come faccio? Li devo pagare, perché io sono italiana, residente, e devo pagare. Vabbè, ma come possiamo aiutarti questa cosa? Ma in nessun modo, ma come basta, in nessun modo, insomma, come dai. Paghi e basta. Ma ragazzi, ma questa qua è una che sta per strada, deve mantenere due figli. È chiaro, la mignotta non è che può andare col coso, scusa. Come va? Con la gonna tutta coperta, è chiaro che sapere la storia, secondo me, com'è. E qual è, Susa? Perché io è la prima volta che mi hai telefonato. Mo è colpa nostra. No, però tu mi hai fatto delle domande e io ti ho detto sì, che non dovevo dire sì. Devo tenere la bocca chiusa. Ma su che cosa? Loro si sono incazzati da morire. Cioè su che cosa? Spiegami. E sul fatto che tu hai detto delle forze dell'ordine, no? Che è venuto qualcuno e secondo me è venuto il culo di questo. Tu dici una vendetta, la vendetta delle forze dell'ordine. 3.300 è veramente tanto. 3.300 è tanto, sì. Dai, è tanto, scusa, è una lavoratrice normale come tutti gli altri che si fa un mazzo così, si fa un culo così in tutti. Io mi faccio un mazzo così, perché io la mattina mi vado a allenare tutte le mattine alle 6 e mi alleno un'ora e mezza per stare in palla, per stare forte fisicamente, per reggere tutte le ore che sto qui. Eh beh, certo. Anche perché qua è dura, qua c'è l'inverno, c'è l'estate, c'è la pioggia, c'è il freddo. C'è la concorrenza, amica mia. E mi sono costruita una specie di rifugio, perché ho sentito tanto freddo e non riuscivo a lavorare, perché non lavoro in macchina, lavoro... E dov'è che scopi? Dentro sto rifugietto? Sì, sì. Un po' la mignotta ti piace farla? Tantissimo mi piace, ma io sono troia, sono una troia pazzesca per eccellenza. Però una adesso troia questo, pazzesca. Vabbè, questo però. Sessualmente. È una questione sua, signora. Adesso. Nata per il sesso, io sono. Vabbè, ho capito, ma che ci frega? No, per lei, d'accordo, ma interessante niente. Io ho 50 anni, ma ho questo successo così grande perché io proprio lo vivo con passione. Mi dicono che i prezzi sono un po' diminuiti: 20 euro per un rapporto sessuale, 20 euro per un rapporto orale e 50 per un rapporto anale. Da 30 in su. Poi ci sono gli sconti, qua leggo sul Messaggero: un rapporto sessuale insieme a uno orale costano solo 30 euro in mezz'ora. Ecco, mezz'ora, ma no, che mezz'ora? 30 euro sono 5 minuti, eh? 30 euro 5 minuti? Ma sì, il tempo è limitato. Ma 30 euro 5 minuti? 30 euro 5 minuti che fai? Si fa il pontino e poi si fa la scopata, no? Cioè, a 5 minuti tutto dura? Normalmente, scusa, un uomo quanto dura? Vengono là per scaricarsi che sono stressatissimi. Certo. E quanto può durare? Sì, 5 minuti, ma 5-10 minuti. 30 euro. 5 minuti fra parlare, dirti due cose, 10 minuti. 10 minuti, 30. Tu 50 euro, che succede con 50? 50 euro è il pompino che lo faccio solamente in casi eccezionali, quando sono convinta e scoperto. Ah, scoperto 50 euro, dici? Sì, perché io sono molto brava. Sì, sei molto brava. Oppure il culetto 50. 50, pure quello 50. E se vogliono tutto, 100. 100 tutto completo? Tutto. E quanto dura? Preliminare scoperto, fighetta, culetto. E quanto dura tutto ciò? E quanto dura il cliente? Che ne so io quanto. Ma io capisco, i prezzi sono diminuiti o sono sempre gli stessi? Non so io che prezzi fanno le altre, io faccio questo. I tuoi sono diminuiti, fai degli sconti, no, tu. No, c'è la crisi o no? Morde la crisi o no? Ma guarda, per scopare no. Per scopare no. La sentenza di Susanna, t'abbraccio, sei sempre nei nostri cuori. 3.300 euro uno scandalo. 3.300, Giuseppe! Che ti devo fare? Facciamo una cosa. Colletta tra il grande popolo della zanzara. Aiutate Susanna. 3.300 euro, appena li raccolgo ti richiamo. Ti abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi. Ciao, super, saluti, ciao. Cara. Ragazzi, è incredibile, 3.300 euro di multa a sta poraccia, dai, su, ma bisogna fare qualcosa, Valenzo. Dalli tu, regalali tu 3.300 euro. Scusami? Regalami... Non ho capito, scusa? Regala tu 3.300 euro. Adesso, con tutto il bene che posso volere alla lavoratrice, alla compagna lavoratrice, però sai, no? Michele dalla provincia di Lucca, anzi Andrea da Monza, vai Andrea, vai. C'era. Andrea, dimmi. Senti, io volevo dire che siamo veramente conciati male, cioè guarda quanti miserabili che telefonano in questa radio, veramente. Parenzo, di qualcosa. Ma che vuoi, cioè, Andrea? Che dica, perché ci vuoi rompere i coglioni? Non ho capito. Ma io rompo i coglioni, sì. Non lo so, tu ti senti che cosa? Perché invece tu che ti senti? Invece uno superiore agli altri, che ti senti? Ma no, io mi sento assolutamente normale. Adesso ho intervistato una puttana, poverina. Sì. Qui noi abbiamo un'Italia che è disastrata. Ma ci vuole tanto a creare la cittadella dell'amore? Su questo hai ragione. Ma tu sei l'indotto che crea, fai il negozietto a tema, piuttosto che tutte le periferie disastrate. A me lo dice, amico mio, ma è una vita io che dico che bisogna fare la legalizzazione con tutte le vetrine, la città del sesso, le cose, come nei paesi civili. Sì, ma sai come riqualifichi tutti i quartieri, anziché darli in mano agli africani? In mano a chiunque, non è quello il punto. Basta guardarsi i bandi dell'assegnazione delle case popolari. Comunque, indipendentemente da questo, io ho chiamato per fare due riflessioni veloci da dare in pasto agli ascoltatori, da dare in pasto a voi e agli ascoltatori. Impasto, la prima riflessione è sull'odio razziale di quel titolo, Islamici Bastardi. Ora, che l'islamico sia una razza abbastanza discutibile, comunque secondo me l'Islam è una religione, non c'entra niente con la razza. Un magistrato che spende del tempo e dei soldi per andare a indagare un direttore di giornale che fa un titolo del genere è probabilmente un disastrato mentale. E poi un'altra cosa che volevo fare, sempre una riflessione con voi e con gli ascoltatori, è il caso di Cappato, questo Cappato che viene indagato per istigazione al suicidio. Perché l'ha voluto, cioè l'ha voluto lui fortissimamente. È denunciarsi, come nella tradizione radicale. È andato lui là a rompere i coglioni, mettetemi sotto accusa, ed è contento che sia stato indagato. Sì, per cui sì, perché così si apre il dibattito nella sua mente, il Parlamento parlerà, non deciderà un cazzo come al solito. Ma in realtà quello che volevo dire io è fare una riflessione con gli ascoltatori, con ancora voi. Ancora questa riflessione con gli ascoltatori. Sì, riflettiamo tutti. Sì. È il fatto che i vari sindaci, i vari amministratori locali, i vari governanti, i ministri, le torre varie, Quando ci sono i cittadini italiani che si ammazzano, il mese scorso si è ammazzato un ragazzo di 22 anni perché poverino non trovava lavoro, non aveva futuro. Ora, queste persone qui devono essere anche loro indagate per istigazione al suicidio. Il sindaco che dà ma non lavoro dire cazzate, utile, dai, ma non dire ma, puttanate, ascoltami, dai. Ma stai dicendo delle lavoro, puttanate, ma che istigazione al suicidio per i politici, perché i giovani si suicidano? Il dirigente di Equitalia che manda la cartella esattoriale, quello è un altro discorso. Che poi si ammazza, ma quello è un altro discorso. Ma quello è un altro discorso che riguarda il magari sindaco, il sindaco che dà il lavoro socialmente utile anziché al cinquantenne italiano disoccupato, sfortunato, con famiglia, all'ultimo arrivato africano che probabilmente non ha fatto un cazzo nel suo paese e mi domando come possa fare qualcosa nel nostro. Ancora che quello lì va indagato per istigazione al suicidio, perché solamente cappato? Tutti indagati per istigazione al suicidio, dai. Ma sai, scherzo, ma sai quanta gente si è ammazzata con questa crisi? Ma che c'entra, ma questo con l'istigazione al suicidio, amico mio? È ma istigazione al suicidio, quando un sindaco decide di dare il lavoro anziché al ma anziché al rispetto italiano, a cosa? Dammi un esempio di un sindaco che decide di dare un lavoro, come dici tu, un immigrato piuttosto che un giovane italiano. Cioè, ma è pieno, ma, dove? Ma dove stanno sti lavori dove vengono privilegiati gli immigrati? Spiegami, lo sai quanto sono duro io sull'immigrazione clandestina, ma dimmi un lavoro in cui sono privilegiati o comunque scelgono non si sa chi giovani immigrati rispetto a giovani italiani, dimmene uno, è pieno, dove? Dimmene uno. Basta che prendi l'elenco dei comuni amministrati dal Partito Democratico e che cosa succede in questi comuni? Che cosa? Privilegiano chi? Rispetto a cosa privilegiano? Rispetto al padre di famiglia cinquantenne che ha perso il lavoro. Ma qual è il lavoro? Ma qual è il lavoro in cui sono privilegiati gli immigrati rispetto agli italiani? Me lo devi dire. Ma appunto, la pulizia delle strade. Ma la pulizia delle strade, non c'è un italiano che la vuole fare, amico mio. Ma non c'è, meno male, bravo. Dai, non dire cazzate. Non diciamo, a parte che bisogna vedere questi lavori che dici tu, di cui tu parli, se ci sono, se non ci sono, eccetera, eccetera. Guarda, vorrei vederli. Parliamo delle case popolari, parliamo di italiani. Ma quello è un altro discorso. Le case popolari sono altri discorsi. Le case popolari. Le case che si ammazza. Ma amico mio Andrea, le case popolari ci sono dei bandi. Per me è una vergogna i bandi, perché le case popolari già non dovrebbero esistere. È chiaro che non dovrebbero esistere. Certo, in dovrebbero esistere. No, assolutamente no. Cancelliamo le case popolari. Sì, bravo, così ancora più gente cancelliamo così le case. Ancora più ma gente lasciamo per perdere. Brava, siccome funziona per reddito, è evidente che le famiglie extracomunitarie in questo caso sono avvantaggiate no, perché non hanno solo redditi per reddito. Ci sono diversi parametri, numero come di familiari, eccetera. Reddito, numero di familiari, se quelli fanno sei figli, è disabilità, chiaro. Anche la disabilità. Vabbè, Andrea, costituisce allora un punteggio. Allora Andrea, non ho capito. Stai in silenzio, Parenzo. No, fai silenzio tu. Fai silenzio tu, capra cornuto che non sei altro. Fai silenzio tu. Alle 20:48 torna a casa, sì, che è meglio idiota, a verificare cosa me succede. Ma stai ascolta zitto me, tu, idiota. Ma cosa vuoi da me? Ma guarda cosa vuoi? Noi, ma no, torna a casa alle 20:48 se c'è qualcuno che ti aspetta siamo, magari. E se qualcuno ti aspetta, non la minoranza iperattiva che tu rappresenti. Ma noi chi? Non ho capito. Noi persone normali. Sì, io ma sono normali una che normale, ma tu sei da quello io che dice è anormale, sì. Io non sono un fanatico immigrazionista come Parenzo. Ma tu sei fanatico immigrazionista? Io sono una immigrazionista, persona normale. Sì, ma che io sono ma una normale. Normale. Che lavoro fai? Chiederlo ai suoi parenti se lei è normale, che guarda. Sono una persona normale che lavora, che porta a casa il suo stipendio e che cerca di far andare avanti la sua famiglia. Che lavoro fai? È tutto normale. Che lavoro fai? Non ho capito. Io sono un tecnico informatico. Va benissimo, ottimo. Io non ho capito il privilegio che normale. Allora io una cosa ancora, perché continua a ripetere la persona normale? Cioè, ha bisogno di conferme, perché continua a ripetere? Sì, ho bisogno di conferme, da te che non sei normale. Da te che reciti una parte. Sì, sì. Io non ho capito Andrea, dove sta questo privilegio? Perché uno dice l'immigrazione clandestina è un altro discorso, appunto. Ma la questione del privilegio che c'è nei confronti degli immigrati, vorrei capire qual è il privilegio, i 35 euro, la solita storia? Ma no, guarda, i 35 euro non me ne ma quello è un altro discorso. Qual è il privilegio? Dov'è il privilegio? Spiegami, qual è un'azienda che privilegia quando lo fanno? È una cosa ridicola quando dicono preferiamo, come per esempio Starbucks adesso a Milano, no? Sì. Dice prenderemo i profughi o prenderemo gli immigrati. Ma tu devi prendere la gente capace, no? I profughi, gli immigrati, gli italiani. Forse tu non mi ascolti quando telefono, perché io ti ho già telefonato spiegando. Ma non mi ricordo, mi chiama tanta gente, dai. Ho telefonato ad Alessandro Milan che mi ha mandato a fanculo. Vedi che bravo, sempre detto io che Milan è sì, bravo. L'ho sempre detto, ha fatto molto bene il professor Milan. Cosa hai detto? Perché io in diretta sulla trasmissione della mattina, ho detto semplicemente che il 21 giugno di quest'anno Confindustria ha stipulato un accordo col Ministero dell'Interno per fare dei corsi di formazione a questi richiedenti asilo. Io me lo ricordo, gratis, sì. gratis, pagati da noi, sì, perché sono gratis per loro. Ma sono non ricordo questo episodio, non me lo ricordo. Io non vedo questa cosa qui per il disoccupato cinquantenne italiano. Cosa sta dicendo? Ma non lo so, ma non mi interessa, tutte cazzate. Dai, sì, cioè, ma sono tutte puttanate, dai. Andiamo avanti a parlare di puttane, andiamo a parlare di multe. Perché non vai a puttane tu? No. Mai andato a puttane? No, non sono mai andato a puttane, non ho nessun motivo. Ti avrebbe fatto bene. No, ti assicuro, non ho nessun motivo. Non ho nessun motivo, no. Ma è ogni tanto qualche divagazione, magari tra qualche anno andrò fuori di testa, andrò anche a puttane, non lo metto in dubbio. Ciao Filippo Parma, vai Filippo. Filippo! Non dobbiamo dire cazzate. Cioè che cosa, Filippo? Che le troie costano sempre di più. Ma che ne sai tu che costano sempre di più? Che ne so io? Frequenti? Sono un cultore assoluto, un amante. Cioè un frequentatore di puttane. Vado a troie almeno 3 volte a settimana. Ma dove? A Parma o a Roma? Parma e Roma. Parma e Roma. Ma dove le trovi? Internet, strada, case? Annunci, case. E poi ormai insomma c'ho una certa esperienza. Cioè c'hai dei numeri fissi insomma. Hai dei numeri fissi. Costi? Costi. Culo almeno 70. Vabbè, adesso questo prezzario non è poi? Che ci serve... No, come non serve il prezziare? Sì, ma ho capito, non ci serve niente. Il punto qual è? Cioè, che sono aumentati, è vero o no che sono diminuiti i costi a Roma? No. No. No. Non è vero. Quindi, cazzate assolute. Le troie costano di più. Ma perché dici di più? E sono tutte più scarse. Vabbè, ma quello questo, è questo, titolo e l'occhiello ha fatto, vedi, già pronto. No, per... amico mio, scusami. Esatto. Però ecco. Mi sembra, questa è la tua esperienza personale, sono sempre più scarse. Le sceglierai male, scegli meglio. C'è una vasta scelta, una vasta possibilità di scelta. Oltre all'inserto per i commercialisti sui norme e tributi, faremo un nuovo inserto del Sole 24 Ore. Esatto, dedicato a questo. Ciao ragazzi, a domani, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Quel nano malefico. Radio 24. Libera la voglia di fare. Vai, vai,